Benvenuti! Puntata numero? 19/20. Sì. Di che cosa? Di? Maggio. Però è giusto. Sì, è giusto, è ancora, è maggio, è maggio. Ma questo per dimostrare che siamo in diretta. Sì, avete visto? Avete visto? Sì, ricordiamo per chi ha aperto questo file audio senza saperlo, questo è Finbusters. Il podcast di cinema che elimina la puzza di piedi, ma ne sono intrinseco, e come c'è? La puzza di piedi. La puzza di piedi de? Monco. No, però dico, non lo so, a noi rimane, a voi che l'ascoltate, va via. No, a chi l'ascolta, sì, noi... Sì, no, perché noi ce la teniamo stretta la nostra puzza di piedi, la rivendichiamo. Quindi tu l'hai anche traslocata. Sì, io sono in una nuova sede, che la nuova sede di Filmbusters è un call center in Albania. Yeah. E, no, davvero, avete mai chiamato al centro assistenza Sky? Ormai lo dicono proprio, trasferiamo la chiamata al centro assistenza in Albania. È bellissimo, tutto lì ormai. Albano Lucano era. Sì, può dare, no, ad Albano che ormai fa questa cosa. Vabbè, sì, no, comunque infatti per dico. I fedelissimi ormai ci conoscono, però ogni tanto magari qualcuno apre il podcast su iTunes, ma chi? Vabbè, i nostri parenti. Quelli no, che... neanche voi. Neanche i parenti. Comunque, Filmbuster, e c'è anche un sito, lo vogliamo dire? Diciamolo. Pronto Albano, la linea va? E va! La mia linea se ne va! Era questo? Aspetta che controllo. No. Filmbusters.blogspot.it, segnatevelo, giovani amici. Oppure lastampa.it, è un po'... Sì, noi lo... No. Allora, per chi non ci ascolta da tempo e per chi non ci ascolta mai... Noi siamo famosi per far morire la gente. Sì, oggi subito. Uno fresco di giornata. Sì, è uno. E uno di quando è? Di settimana scorsa ormai. Ma chi se ne frega, è morto. È ormai puzza di brutto. Si è irrigidito, si è riammollato e si decompone. Quindi partiamo da lui, è Hans Rue di Geiger, che i cinefili ricorderanno per Aliens, e i cinefili un po' più informati lo ricorderanno anche perché ha influenzato poi tutto il cinema successivo, ha collaborato ad altri film, doveva collaborare alla versione di Dune di Jodorowsky, che qualche suo disegno poi sia stato anche usato per quella di Lynch, e poi vabbè, un artista a tutto tondo che realizzava sculture, dipinti, fumetti, qualsiasi cosa. È morto a... no, non mi ricordo. 70 anni, mi sembra. Era 74, non 74. Mi ricordo. Comunque un lutto inaspettato, o comunque... non naturale, ha avuto un incidente, una caduta, non si è ripreso più e i postumi lo hanno portato al decesso, e vabbè, piangiamo un altro grande, non solo del cinema, vabbè. Invece oggi... Aspetta, la cosa più difficile è fare un articolo su di lui e trovare una bella immagine, davvero delle facce orribili sempre. Specie adesso che era invecchiato un po', sì. Vabbè. Ciao. Sempre truce, sempre incazzato. Un uomo brutto. Si era autodisegnato. Sì. E l'altro invece cinema a tutto tondo. È morto Gordon Willis, credo proprio oggi. Sì. Direttore della fotografia di, tra le tante cose, ma insomma bastano questi tre, Il Padrino, Manhattan e Io e Annie. E tante altre cose. Comunque Il Padrino in particolare credo sia una cosa che si studia ancora adesso come lavoro di fotografia, quindi diciamo che sarebbe bastato quello. È un dramma anche questo, vabbè, se ne va un sacco di gente a età, diciamo, giusta, insomma, onorevole. Giuste, sì, se si può dire, però dispiace, che devi fare? Come direbbe Mitch Cannone, era un signore. Così. Era un signore, erano due signori. Sì. E invece abbiamo anche delle news, vive queste. Sì, diciamo di sì, anche perché insomma. Tu hai qualcosa? Ne hai tante? Sì. Roba veloce, ma sì. Io velocissima dico che uno. Sono iniziate le riprese di Star Wars. Il 14 maggio a Abu Dhabi. sono iniziate, il cast l'avrete letto dappertutto, ci sono vecchie glorie, nuove glorie, Gloria Gaynor, no, lei no, però insomma è iniziato, sulla sceneggiatura e tutto il resto ancora non si sa niente, l'unica cosa, pare, che il ruolo di Harrison Ford, quindi Han Solo, almeno nel primo capitolo sarà corposo, questo è sfuggito, insomma, voci di corridoio. Tra l'altro, che questo magari vi era sfuggito ed eravate contenti fino a questo momento, ma sì, Harrison Ford sarà anche in Blade Runner 2, la struttura è già praticamente pronta, è un progetto che si farà. Ok. E poi passare ai nemici, Star Trek, si farà il 3, non c'è J.J. Abrams perché c'ha i suoi impegni, ma Roberto Orci, suo collaboratore dai tempi di Alias, ha detto, ma sì, lo faccio io. Purtroppo, chi è che è? La Paramount o la Warner Bros. Hanno detto, vabbè, un attimo, vediamo. Però, insomma, sarebbe un passaggio di testimone azzeccato. Sempre lavorato assieme. Sceglierne un altro, dopo che i primi due capitoli erano andati comunque bene. Poi, velocissimamente, ci sarà il film su Gambit, della saga degli X-Men, a gran richiesta proprio. E il protagonista sarà Channing Tatum, lui contentissimo, ci mancherebbe. E poi sono uscite le prime immagini di Batman vs Superman, prime immagini di Ben Affleck col vestito, con l'accappatoio e il mantello, e subito soprannominato Sad Batman, o Batman come volete, perché è molto triste, molto incupito e giù, non è molto contento. Si è vista la nuova Batmobile, praticamente identica a quella di Nolan, quindi chi se ne frega. Notizie legate a questo, nel 2016 vabbè uscirà questo Batman vs Superman, 6 maggio se non sbaglio 2016. Nel 2018 uscirà il film sulla Justice League, chi se ne frega, e nel bel mezzo tra i due uscirà il film su I Sinistri 6. No, Wonder Woman, e il protagonista sarà Gal Gadot, che sembra che abbia fatto l'ultimo Fast and Furious, anche qui chi se ne frega. E boh, ma io ho finito. Qualcosa ce l'ho, ma la tengo per Cannes. Vai! Ah, sei un Cannes. Vabbè, niente, una cosa proprio rapida. Sono uscite delle foto del film Black Mass di Scott Cooper, che è un biopic sul gangster Whitey Bulger. A interpretarlo c'è Johnny Depp, che tanto per cambiare è truccato. Ma fa solo quello. Gli mettono il make-up addosso e lo mettono nei titoli di coda e finisce lì. E quest'altra invece riguarda un po' Cannes, ma indirettamente c'è Viggo Mortensen, che in questi giorni è lì per promuovere il film in cui recita, che è I due volti di gennaio, e l'hanno intervistato per altre cose, gli ho cominciato a dire peste e corna del Signore degli Anelli, ha detto che il primo film sì, insomma, qualche difficoltà, ma gli piaceva, il secondo già troppa computer grafica, il terzo davvero decisamente troppa, e Peter Jackson era un po' andato, diciamo, si era fatto un po' prendere la mano, e poi ha proprio detto che è diventato schiavo dei soldi e della tecnologia. I suoi film sono tutti pacchettoni di computer grafica, insomma, ha detto davvero, è andato abbastanza sul, non sul personale, ma quasi, insomma. E poi vabbè, l'Hobbit neanche a dirlo, gli ha dato giù ancora di più e sta dicendo l'impossibile, non so come mai, ci sarà stata una rottura, vabbè. Poi quest'altra riguarda un film che è anche a Cannes, è la scomparsa di Eleanor Rigby con Jessica Chastain e quell'altro che non mi ricordo il nome, sì, James McAvoy. E il film uscirà in 3 versioni, è una cosa mai vista prima, cioè già si sapeva che sarebbe uscito in 2 parti, però sembrava si parlasse di capitoli, invece no, sono 2 parti della stessa storia raccontata dal punto di vista di lui e di lei, e invece poi uscirà una terza versione che credo le comprenda entrambe, quindi in realtà non cambia nulla, però faranno il triplo dei soldi, ammesso che ne faranno. È quella che hanno fatto a Cannes, Them si chiama. Però a quanto sì, pare che è quella, è una summa, ma tagliate le parti meno importanti. Sì, perché già da sole le 2 parti sono molto lunghe, quindi hanno fatto una specie di riassuntone, non so, non capisco il senso dell'operazione. Sembra interessante a livello commerciale come scelta, però vedremo. Poi un'altra stranissima, ormai vecchia, è stato annunciato il sequel di Spring Breakers. Yeah. completamente slegato a livello diciamo, persone coinvolte dal primo, ma uscirà, è già in preparazione. Jonas Åkerlund dalla regia, quello di Small Apartments, che era una strafigata, sì. e poi, come si chiama, quello di Trainspotting, La sceneggiatura Irving Irving Welsh. Welsh. I nomi sono interessanti, bisogna vedere. Dicono Miley Cyrus, purtroppo, nel cast. Boh. Diventerà proprio un brand in cui le ragazzine vanno a fare le zozze, cioè ormai è diventata una saga. Poi un'altra stranissima, un altro sequel strano, pare se ne parlasse già, io non mi ricordo. Comunque è confermato praticamente Beverly Hills Cop 4. Uscirà nel 2016, quindi ha proprio una data di uscita, e lo dirigerà Brett Ratner, che è quello che ha rovinato la saga di X-Men e ha diretto altre cose più o meno Ha stuprato una donna dimenticabili. E ultimamente. sì, ha stuprato mia madre e ucciso mio padre, con le sigarette, sì, e niente, il terzo era pessimo, però vabbè, noi aficionados magari l'avremmo apprezzato, ma questo, non lo so, soprattutto come l'attore è più che decaduto, quindi vabbè, continua questa pratica di riesumare i morti, non credo smetterà mai. Poi un'altra vecchia, ma noi eravamo irrintracciabili, Sorrentino era già al lavoro su un film, ora è venuto fuori il titolo, si intitolerà La giovinezza, c'è anche un cast, Michael Caine, Rachel Weisz, Harvey Keitel e Paul Dano, quindi film americano a tutto tondo, ormai vivrà in trasferta, credo. E poi anche sul prossimo film di Woody Allen c'è trapelata qualche notizia, pare che i protagonisti saranno Emma Stone, ma si sapeva già, e Joaquin Phoenix. Non Sì. so, mi sta venendo il dubbio, forse ne avevo già parlato, ma no, non ne sono sicuro. È passato 3 mesi dall'ultimo, vabbè, mi ricordo neanche come si intitola il podcast, Basta. l'avevo già detto. Ah, e poi l'ultima, chiuda, non è vero, non è l'ultima. Comunque, Ridley Scott ha sostituito Drew Goddard dalla regia di The Martian, che è l'adattamento di un romanzo di fantascienza, protagonista Matt Damon che si perde su Marte in una missione andata male. So, dopo Gravity sembra tanto un recupero in extremis, vediamo. Poi, sempre Cannes, tra i film che non sono lì in concorso ma in cerca di distribuzione, c'è Voyage of Time di Terrence Malick, che è uno dei suoi tanti progetti in corso che ancora non sono usciti, dicono il suo film più ambizioso, non so su che basi, comunque un documentario, no? Un'opera di finzione, sull'universo, sulle stelle. Qualcuno subito ha pensato a Tree of Life, sì, probabilmente quel materiale veniva da qui o viceversa, insomma, ha utilizzato materiale che vedremo anche in questo film. Uscirà in una versione tagliata da 40 minuti e poi in una integrale della lunghezza, insomma, di un lungometraggio medio. Insomma, vedremo. Poi un altro film che uscirà è il prossimo dei Coen, è stato confermato, Hail Caesar. La storia è molto interessante, parla di una guardia del corpo, di un poliziotto che diventa un, diciamo, la persona addetta, insomma, a proteggere gli interessi dei divi, a metterli al sicuro quando fanno qualcosa di sconveniente, quindi è una cosa molto interessante. E poi è stato mostrato il trailer di VHS 3, Vai. che è una saga che non vuole morire, non glielo auguro perché non è da buttare, però insomma, se magari facesse un salto di qualità, gradirei. Comunque VHS 3 con il sottotitolo Viral, non so perché, i nomi sono quelli di Nacho Vigalondo, lo ricorderete ormai, che era coinvolto anche in ABCs of Death, Marcel Sarmiento, anche lui viene da lì, Greg Bishop, poi Justin Benson e Aaron Murad che dirigeranno insieme. Io non li conosco questi ultimi quattro, a parte Sarmiento e Vigalondo, quindi boh, non so che pensare. Il trailer è abbastanza movimentato, vabbè, per metà mostrano scene dall'1 e dal 2, però quello che c'è del 3 è abbastanza ricco. Speriamo che poi anche il film sia così movimentato e pieno di idee. La roba è sempre la stessa, sempre POV, videocamere, insomma, non ci si muove da quello, insomma, è il marchio di fabbrica della saga, per cui, vabbè. Però insomma, Certo, costando spero che si di siano andati una svegliata. Sì, infatti, per carità, poi il film a episodi costa poco, incassa poco, però divertisse anche una volta. E niente, ho finito. Poi la posta del cuore, non c'è, o comunque se la facciamo parlando dei film, perché ci è stato chiesto solo sono state chieste solo cose relative ai film di cui parleremo. Ma una, a meno che non mi è sfuggito qualcosa. Una forse ce n'è, quella. Vado a vedere veloce. Allora, una era quella di Luca Sebastiani, a cui più o meno ho risposto. Non mi sembra tu abbia visto quelle due serie, cioè Gomorra e Top of the Lake. No. Le viste? E quindi niente, gli ho già risposto. Però uno chiedeva invece di la quarta stagione di lui, che tu stai guardando, non so se sei arrivata alla quarta. Ho appena iniziato la seconda, non mi fa impazzire. Ci sono alcune puntate molto, molto intelligenti, molto originali, che mi sono piaciute. Altre invece che non ho sopportato, semplicemente perché per metà è, sì, è di sicuro una serie originale, perché metà è, sono i suoi monologhi da stand-up comedian, su cui si basa più o meno poi la serie, diciamo, episodi con recitati, eccetera. Sì, originale è originale. Se lui non fosse sempre così volgare, proprio insostenibile, sarebbe meglio. Perché è intelligente, è anche molto simpatico, ha dei tempi comici azzeccatissimi. Solo che, ecco, più che esagerare, lui deve provocare per forza, quindi deve metterci dentro la religione, non lo so, il mestruo, per dire, la cacca, la sborra, quelle robe lì che la prima volta ti possono anche colpire, la seconda, vabbè, non sono più così scioccato, né mi stai dando fastidio, ho capito come fai, va bene. Continuerò perché mi sta simpatico, alla fine ti entra dentro la sua facciotta. Vedremo se arriverò fino alla quarta. Dicono che la quarta sia anche la più bella per ora. Vedremo. Infatti lui parlava proprio di quella, credo che sia quella in corso, evidentemente. Sì, appena iniziata in America. Ok. Ed la domanda era di Giorgio Massignani, che ci chiede anche qualcosa su Cronenberg, ne parliamo dopo riguardo a Cannes. E le altre due domande, lo dico ora così poi non me lo dimentico, erano di Baron Berry, che ci chiedeva di Godzilla, te ne parliamo dopo, e l'altro era Matteo Paoloni, che anche lui ci chiedeva di Godzilla, di Edwards, diceva quali film di Edwards consigliate di evitare, visto che non gli è piaciuto Godzilla, e ha diretto solo Monster, e io ti dico sì, non ti perdi niente, ecco, è stato molto... gonfiato a posteriori, per cui sì, non è massacrante come Godzilla, o forse sì, non ricordo, ecco, non me lo ricordo bene, mi lascia stare. E invece passiamo a Cannes. Sì, ma l'anonimo che mi chiedeva se sono caduto in bici qualche settimana fa, no. no, comunque, ma da dove sarà venuta fuori questa cosa? Lo so, è perché sono monco? Già da un bel po', quindi No, sono caduto anni fa mentre tentavo di mettere la gamba sopra il manubrio dall'altra parte, sono caduto di faccia, poi siamo andati in piscina da Case, questa è un'altra storia. Tra l'altro Case, e voi dite, ma si scriverà Case, perché lui è Casella, invece no, è Case con la K e la Y. Beh sì, mi sembra giusto, è un fan dei Black Keys. Infatti si pronuncia anche in un altro modo, ma fa niente. Cannes, 67esima edizione, iniziata era il 14 maggio, quindi mercoledì, cerimonia d'apertura, c'era Lambert Wilson, e dicevo, ma Lambert Wilson è quello che era anche a Locarno? Non era passato una volta? No. Non lo so. Ma avevo qualche, vabbè, comunque, subito dopo c'è stato il film d'apertura, Grace di Monaco, di Olivier Dahan, che è stato il regista anche della Vie en Rose. Quindi due biopic, uno su un'importantissima icona della musica francese, cioè, vai! Edith Piaf, già che hai iniziato, dico, è uno dei pochi biopic che mi piacciono, esatto. Forse perché mi piace Edith Piaf da morire, però era interessante l'approccio, e ho letto che questo è simile, no? Sì. A metà tra realtà e fiaba, un po', insomma. Infatti i Grimaldi, cioè i regnanti ancora a Monaco, sono un po' incazzati, hanno detto che non è per niente fedele alla realtà, è troppo glamour, è troppo romanzato, e quindi loro non lo guarderanno, che è sempre bello. Dai un giudizio. Io ho sentito che i Grimaldi si sono lamentati perché Grace è troppo grassa. Sì, grassa di Monaco, dovevano chiamarlo. Sì. No, tra l'altro non parteciperanno a Cannes, cioè non parteciperanno, non andranno a fare la loro sfilatina dopo anni e anni e anni di presenza, e Cannes ha alzato le spalle e ha detto se ne frega. Poi un altro film che non ci è andato, come i Grimaldi, e sempre rimanendo in ambito polemiche, è stato quello di Abel Ferrara, Welcome to New York, che ve ne avevamo parlato già ai tempi di Locarno, perché c'era Isabella Appert, Isabella Appert, cosa c'entra? Come cacchio si chiamava? Quella... Fanny Ardant. No. Aspetta, non mi... Jacqueline Bisset, che è la moglie di Depardieu, che interpreta Strauss-Kahn nel film. Abbiamo parlato un po' lì, insomma, Kahn, che è sempre insomma, non ha paura di portare film controversi, questa volta si è tirata indietro, ha detto no, questo è abbastanza ancora un nervo scoperto per la Francia, perché parla dello stupro presunto o reale che c'è stato di Strauss-Kahn con una cameriera in un albergo a New York, e vabbè, alla fine hanno detto di no. Però il film, se lo volete vedere, è online in questo periodo, poi mi sembra che esca in Francia già nel weekend, da noi non c'è una data. Lo streaming è in HD, eccetera, tutto bello, però costa sui 7 euro o 8 addirittura, che è un po' tanto per uno streaming. Cioè, è come andarlo a vedere al cinema. Però sono a casa mia, sto pagando io la corrente, vabbè. Comunque, se vi interessa. E tra l'altro è già uscita una polemica, perché Strauss-Kahn l'ha visto e ha detto: mi sono sentito male, mi ha spezzato il cuore, Ferrara mi tratta come uno stronzo, come una merda. E quindi è partita già la querela per diffamazione. Poi altre polemiche ce ne sono state? Sì. Anna? Sì, dimmi. E ho sentito che qualcuno ha commentato riguardo al film di Tommy Lee Jones, che si intitola The Ah, Homesman. quello degli indiani. Qualcuno ha detto: ancora gli indiani cattivi. Lui ha detto: non rompete i coglioni. Più o meno ha risposto dicendo: insomma, un'opera di finzione, e il punto è un altro, serviva semplicemente un... E poi anche, su, che palle. Sì, poi ha detto che comunque gli indiani che ha usato sono indiani veri, è stato clima di amicizia. Gli ha spiegato che doveva fare i cattivi nel film, però insomma era solo. Sì, era per arrivare a un altro messaggio, ha messo in scena una cosa classica, non vuol dire che ce l'abbia con gli indiani, su, dai. Poi. Anche perché pare sia un bellissimo film, vabbè, ti anticipo, ne parlano tutti davvero bene, bene, bene. Si parla di una somiglianza con Eastwood come messa in scena, come sguardo, e quindi non possiamo che essere contenti Sì, e lo questo è aspettiamo. uno dei film che è già uscito, cioè che è già stato presentato, che è piaciuto parecchio. Insieme a lui sono già stati presentati anche Saint Laurent di Bertrand Bonello, che mi sembra uno di quelli che è piaciuto meno. Poi Winter Sleep, stavo leggendo il titolo turco, non mi veniva l'italiano, quello internazionale, di Nuri Bilge Ceylan, che vi ricorderete per C'era una volta in Anatolia, questo è piaciuto parecchio a tutti, super candidato alla Palma d'Oro, ma siamo a metà, devono ancora uscire i pezzi grossi, anche se qualcuno è già uscito. È piaciuto a tutti tranne a Marco Giusti, non so se hai letto. Sì, ma anche altri ho sentito, e poi ruota tutto intorno alla... a una cosa che a qualcuno è piaciuta e a qualcuno no, cioè la verbosità Sì. del film. Qualcuno l'ha eletta a punto di forza, qualcuno l'ha detto insopportabile, un film di quasi 3 ore, se non sbaglio. Ma anche gente abituata a dei bei mattoni ha detto no, no, No, ma stavolta non so no. se hai letto quello che ha detto Marco Giusti. No, No, Giusti no, ha letto gente che è lì su Facebook, no, anche lui è quindi... lì, ma ha detto Night Sleep, titolo perfetto, na dormita. Vabbè, ma lui ha dormito anche con Outrage e tutto il resto, dorme sempre, Sì, ma è giusto. bello. Poi oggi è la giornata, perché lo presenteranno alle 22, immagino per il grande pubblico, perché la stampa l'ha già visto. Questo Martedì. ieri. Di Cronenberg, troverete già le recensioni, piace, non piace, si spacca, al solito i film d'autore dividono parecchio. Noi lo vedremo, cioè esce in Italia già da giovedì, quindi bella. Poi cosa è uscito tra quelli? È uscito Captives di Ego Yan, spero che anche qui ci sia una frase tipo: dov'è mio fratello? Hanno detto tutte le stesse cose che avremmo, a meno che ho pensato io, di Devil's Knot. Cioè, stessi problemi, magari una messa in scena rigorosa, ma toni sbagliati, e poi boh, qualcuno ha detto per un film che parla anche di pedofilia, una noia Ma magari inaccettabile. Devil's Not ne parliamo dopo comunque. Sì, no, era, no, io parlavo Sì, di questo. ma per dire, mi riaggancio che l'abbiamo visto e poi magari ne parliamo. Poi, come detto, The Houseman di Tommy Lee Jones, piaciuto a tutti, anche questo potrebbe vincere qualcosa. Mr. Turner di Mike League, anche questo è piaciuto meno, tra quelli usciti insieme a Saint Laurent, forse quello che ha raccolto meno consensi. Piaciuto tantissimo invece Foxcatcher di Bennett Miller con Channing Tatum protagonista. Ieri è stato il giorno delle meraviglie di Alice Rohrwacher, l'unico film italiano in concorso. Io ho letto solo critica italiana e sì, bello, ma praticamente tutti. Però tutti ricordano che la giuria, con presidente Jane Campion e con quattro donne dentro, quindi lievemente in vantaggio le donne, potrebbe pesare. Perché è un film al femminile, ha una regia buonissima, questo ne parlano tutti, dicono che magari non punta alla Palma d'Oro, ma al premio per la regia ci può arrivare benissimo. Però tutti a dire sì, bello ma, carino ma, eccetera, originale, ma, vabbè, facciamo il Hai tifo? letto peste e corna, invece, cioè, ho letto cose che riguardavano sia la stampa italiana che straniera, e c'è chi è uscito praticamente ridendo. Come al solito, poi i film italiani, da molti critici italiani, vengono massacrati, tant'è che poi c'è la polemica, come era capitato, insomma, per La Grande Bellezza, che poi ha pure vinto fuori, quindi, come al solito, cioè, confermano queste voci. Però c'è chi proprio l'ha fischiato alla grande, c'è chi invece ha fatto un'ovazione lunghissima. In generale, però, io ho letto abbastanza unanimi, sì, delusioni, soprattutto rispetto a Corpo Celeste, il film precedente. Qualcuno ha parlato bene, ma in generale molto fredda l'accoglienza, sì. E Foxcatcher invece si parla già addirittura di candidatura e possibile Oscar per, oddio, come si Tatum. chiama? Non Channing Tatum, ma l'altro, Ah, non ce l'ho sotto mano. il comico, Steve Ah. Carell. Si parla di un'interpretazione, insomma, buona anche per un Oscar. Evidentemente è bravo, soprattutto è bravo per un ruolo drammatico, visto che lui, insomma, è un comico e non si cimenta spesso con questi ruoli. Però si sono sbilanciati in molti. Cosa manca? Manca ancora il film di Assayà. Sì. Poi manca quello dei Dardenne, che se non sbaglio è quello con la Cotillard, c'è lei nel film. Sì, non sono sicuro perché erano a lavoro su due e ho visto delle Sembra foto. di Sì, sì. credo di sì, sia quello. Comunque sarà bello vederla. Lei è già sulla passerella, quindi ma in qualche modo, c'è. Poi quello nuovo di Xavier Dolan, attesissimo anche lui. Hai visto per caso Thomas La Ferme? Alla ferme No, no, l'ho visto, ancora è no. Gagliardo, insomma. Poi. Volevo fare un recupero di tutti i pochi film di Dolan, Sì, visto ricordiamo che che. uno che ha poco più di 20 anni ha già fatto 3-4 film. E il suo primo film l'ha Sì, fatto a 20 anni. piace molto e piace a tutti. Ha The Search di Hazanavicius, poi quello di Cavase, che se non sbaglio è domani. Domani c'è anche, però, per quanto riguarda Un Certain Regard, il debutto alla regia dell'amicone di Intrinseco, come cazzo si chiama? Ryan Ryan Gosling. Gosling, vabbè, non sono così Sì, fan, sì, comunque, sì. vabbè. Domani anche quello dei Dardenne alle 19:30. Credo che oggi la stampa li veda e domani sia per il pubblico. Comunque, se sono sul calendario vedrete questi nomi. E poi c'è quello di Burman per la Ken Zan, Queen and Country, il vincitore del Sundance, Whiplash, ah no, sì, e poi quello di Zhang Yimou, o Zhang Yimou come volete, Coming Home, poi eccetera, nei prossimi giorni sarà quello di Godard, Adieu Langage, e gli ultimi due, Quello di Ken Loach l'hai no, detto? Jimmy Saul di Ken Loach, poi Relatos, no, Relatos Salvajes c'è già stato. Era ieri, Sì, e l'altro ieri, mi pare. Leviathan di Andrei, vabbè, lo pronunciate voi. Zia Ginsev. Tra l'altro, prima pensando a questi qua, no, che sono già usciti questi, mancano alcuni grossi, alcuni piccoli. Mi sarebbe piaciuto avere una statistica di, dei vincitori del di Cannes o di qualsiasi premio quando sono usciti, se nei primi giorni o a metà o alla fine, cioè per capire anche se è meglio uscire tra i primi e essere giudicati dai giudici o dopo, perché non so, essere tra gli ultimi, vedi comunque un film dopo che ne hai visti quanti? 16, e dici ormai ho fatto quasi le mie decisioni, non lo so, pensavo prima, cosa sarà meglio, uscire subito e magari essere dimenticato, però già far circolare la propria voce, insomma qualcuno ne parla, incominciano a gonfiarti, o alla fine, o a metà, che è ancora meglio, non lo so, ci pensavo, te che dici? Ma io avrei paura alla fine, non so. Beh, ma alla fine stanno tenendo comunque il meglio, perlomeno per la seconda metà, quindi credo che un criterio non ci sia, anche perché negli anni scorsi non mi ricordo un ordine, cioè una divisione di questo tipo. Però boh, credo, insomma, non c'entra, insomma, un film che si impone subito e non te lo scordi più, o meno la giuria, sì, lì loro ne vedono un sacco, ma poi loro credo li vedano in un ordine che non ha nulla a che vedere con la presentazione, quindi è una cosa che influenza solo la stampa, secondo me. E neanche tanto, perché la stampa non è che deve decidere qual è il migliore per forza, per cui non so, penso che la giuria abbia la possibilità di vederli e rivederli quando vuole, o nell'ordine che vuole, per cui non c'è in realtà questo problema a livello di vittoria, di premiazione. Ma chi è Vittoria? Vittoria Cabello. Sì. Io comunque si è visto, diciamo, anche un altro grosso che non è in concorso, si è visto l'ultimo di Wiseman. Ennesimo documentario, ormai ne spara uno all'anno, oddio, adesso National Gallery, sì, giusto, riguarda musei, un museo in particolare, un vuoto, non me lo ricordo, comunque è un documentario sulla vita di un museo, non solo quindi le opere, ma anche la chiusura, chi ci lavora, come ci lavora, enorme, lunghissimo, come al solito piace un sacco, anche se qualcuno ha detto e basta, però insomma, Wiseman è un'istituzione. Poi arriveranno ancora, c'è Asia Argento, un'altra italiana, però in Certain Regard. Sì, qualcuno ha parlato molto bene di Amour Fou, di Jessica Hausner, che è quella di Lourdes, un altro film di festival passati particolarmente amato. E sì, insomma, c'è ancora qualcosina anche fuori concorso interessante, però diciamo che il grosso è tutto in concorso. E comunque, al di là di tutto, ennesima edizione con nomi enormi, c'è Loach, c'è i Dardenne, Lig, Godard, Zanavicius, non è per fare sempre Amalric, Gosling, per dire. Ah sì, debutto, è vero, ma... Amalric, cioè... che non è in concorso ma sta piacendo abbastanza, una chambre bleue, un giallo. Comunque Ceylan, Dolan, che è il nuovo arrivato, ma tac, Cannes se l'è preso subito, Miller... Insomma, soliti grandissimi nomi, magari poco asiatici questa volta, perché c'è dentro solo Cavase, se non sbaglio. Però, ammazza, Cronenberg, scusa, dimenticato. Ma... Sì, qualcuno ha avuto il coraggio di lamentarsi di questo programma, dicendo che non è più il festival, diciamo, dei piccoli film. Beh, insomma, è un bel po' che non lo è, perché è sempre stato un evento molto, anche mondano, sì, con un programma non di film commerciali, chiaramente, ma è sempre stato vistoso e rumoroso. Qui non capisco. Poi se c'è un programma così, cioè, davvero, come fai a lamentarti? Sì, si può obiettare, appunto, qualche asiatico in più, ma chi se ne frega, insomma, sono dei nomi colossali. Poi c'è un po' di tutto, americani, Tommy Lee Jones in mezzo, è bello vederlo. No, io credo che sia l'ennesimo colpaccio. Qualcuno dice sì, però è sempre la stessa roba, sempre i Dardenne che sicuramente vincono qualcosa. Chi se ne frega? C'è Cronenberg, che volete? C'è Godard. Quando è che Godard ricapita con un film che si intitola Adieu à Langage? Cioè, boh, credo che sia uno dei festival migliori degli ultimi anni, questo come programma, come diciamo promesse. Poi vedremo dopo, qualche delusione ci sarà. Ci sarà anche, ma anche è golosissimo. Anche proprio come presentazione, non so, i film fuori concorso, o le varie eventi, o anche solo guardare le foto del tappeto rosso. È un festival di un livello altissimo in confronto, va bene, mondano, chi se ne frega, ma in confronto a un Berlino, sempre spento, a Venezia, che ormai non ci va più nessuno. Venezia. Quest'anno era bello tosto. Sì, ma dico, non aveva nomi, che ne so, che attiravano parecchio. Per i più addetti ai lavori, sì. Però, per esempio, qui ce ne sono tanti che anche il meno appassionato ci dà uno sguardo. Più di nicchia, sì, beh, è bello di avere festival diversi. Sì, sì, Venezia era sicuramente più... Anche se avevano messo bella robina in concorso, cioè fuori concorso, un film di cui parliamo dopo, che non sembra un film da festival, c'era sia un sono, che insomma, ecco, lì gli asiatici non mancavano, hanno presi tutti loro, due si sono ritirati mentre erano lì, per cui non è rimasto più niente, vabbè. Poi non dimentichiamoci che ieri sono arrivati coi carri armati anche il cast di Expendables 3, mica così, i Mercenari 3. Sì, è vero. Che bello, questo proprio dovevano proprio farlo. E va bene, abbiamo finito anche Cannes. C'era qualche notizia esterna, tipo le vendite varie dei film. C'è un dramma con Brie Larson che è stato venduto, si chiama Era Room. Hanno comprato i diritti per Bastille Day degli americani, vabbè, varie robe molto tecniche, qui se ne parlerà molto più avanti. Che volevi dire? Sì, che sempre nella Ken Zen Realizzatore, alla fine come proiezione speciale ci sarà Le Petit Ken Ken, che è una serie TV di Bruno Dumont, che è uno dei registi più importanti in circolazione. Una serie, un thriller, comunque un giallo in provincia, in periferia, che inizia con una cosa molto particolare. Una donna trovata, se non sbaglio, nel ventre di una mucca. Un cadavere, insomma, naturalmente. È una roba bella tosta, fa pensare un po' al recente True Detective, ma anche un po' a Hannibal, però dietro c'è Bruno Dumont, che è un'istituzione anche lui. E poi volevo chiudere rispondendo a una domanda che ci hanno fatto su Cronenberg: accolto male, è già capolavoro? Per me sì, nel senso che purtroppo si conferma questa cosa della stampa italiana che è un termometro al contrario, cioè quando parla male di certi film puoi star sicuro che probabilmente c'è qualcosa di interessante, visto poi cosa è successo gli anni scorsi, ma non solo con Cronenberg, io ricordo l'anno scorso con Refn, con i Coen anche, film che poi io ho amato, quindi insomma vado per logica, spero che quest'anno vada ugualmente. Comunque non è che lo stiano proprio massacrando, cioè intanto lo stanno massacrando magari anche testate americane, quindi non è una cosa così parziale come sembrerebbe. Poi io ho letto anche delle recensioni positive, magari sono arrivate un po' dopo, hanno fatto meno rumore, ma se ne parla anche molto bene. Pare sia un film vicino alla commedia, che per Cronenberg è una novità. Qualcuno dice sì, non proprio commedia, c'è dell'ironia che di solito non troviamo, ma insomma, è molto particolare, è un film molto emotivo per Cronenberg. Io l'ho sempre trovato molto emozionante, anche sotto la pelle, la carne, le sue cose. Però pare che questo sia proprio un film molto sofferto e sofferente, insomma. Sono ancora più ansioso di vederlo, e quindi teniamolo d'occhio. E ci faremo la prossima puntata, tanto. Eh sì. Ah, tra l'altro, appunto, uscirà al cinema anche da noi il 21-22, insomma, qualcuno ha detto c'è una data doppia, non si è capito. E pare che arriverà anche l'ultimo di Amos Gitai, che era in concorso a Venezia, non so se in concorso, comunque era a Venezia, Ana Arabia, che è un film tutto in un piano sequenza sulla situazione israeliana. E quindi non arriva, nel senso, non è lei. No, infatti. Poche sale, poca roba, probabilmente, però vabbè, anche quello della esce Roppa, ufficialmente. Esce proprio questo giovedì. Ah sì? Okay. Quindi, beh, dai, te li senti al festival, li bocciano e subito te li puoi vedere. Visto? Esatto. Esattamente. Prima di passare alle robe nuove, velocissimamente, visto che siamo persi per quasi due mesi, vediamo con giudizi sintetici quello che non vi abbiamo detto? Sì? Veloci? Sì, una roba... Sì, allora, sì. Partiamo da quello a cui dovevamo dedicare l'ultima puntata, The Grand Budapest Hotel, l'ultimo film di Wes Anderson, sintetico, bellissimo, uno dei suoi più belli, ti rallegra la giornata. Wes Anderson è necessario in questo mondo, Se non vi piace, non capite un cacchio, scusate, ma è imprescindibile Wes Anderson. Sì, concordo, è uno dei suoi più belli, ha molto in comune con gli ultimi due, soprattutto con Fantastic Mr. Fox, perché c'è proprio un recupero dell'animazione in stop motion, comunque di quel tipo di trucchi. Molto bello, il film, il suo tipico film, il suo solito film, come direbbe qualcuno, però è bello, è sul piacere del racconto, c'è anche una riflessione sull'importanza dell'autore. Tra l'altro il film è dedicato a Zweig, scusate. C'è un perché, insomma, un film su quel tipo di narrativa e sulla gioia di raccontare, molto bello. Poi io ho visto Gigolo per caso, te l'hai visto? No, ero lontano. Quinto film di John Turturro, c'è Woody Allen, dovrebbe essere una commedia divertente, dovrebbe essere anche una commedia un po' al peperoncino, visto che c'è il sesso, eccetera. Woody Allen pappone di John Turturro Stallone, però alla fine è una noia pazzesca. Non si riesce a ridere neanche a sforzarsi. Girato bene, loro sono bravi, però è una commedia, ma non si ride, questo è un grave problema. Poi The Amazing Spider-Man 2, Il potere di Electro, ho visto solo io? Sì, o l'hai recuperato? Sì, No. Vale. no, ancora no, no. Non avevo questa fretta, Sì. per cui. Perché l'ho visto? Non lo so. È un secondo capitolo praticamente uguale al primo, mantiene lo stesso stile. È un comic movie che tende sempre di più verso il romanticismo ed è sempre più importante la controparte femminile, che è gestita benissimo. Mark Webb arriva dalle commedie romantiche e si vede. È una cosa che mancava ai film dei supereroi, sì e no, nel senso che si poteva anche fare a meno, ma è una cosa che va bene. Porta al cinema più gente perché anche le fidanzate e le ragazzine saranno contente, però manca dal lato dei supereroi, non è molto trattato benissimo e in più ha il solito difetto che ci deve mettere dentro 4-5 cattivi, ne sviluppa alla fine uno solo, quello del titolo, e gli altri o li posticipa al prossimo capitolo, che sarà a quanto pare l'ultimo di questa trilogia, o gli dà 5 minuti e sceglie un attore come Paul Giamatti, che non ha senso. Vabbè, c'è chi è piaciuto, c'è chi no, per fortuna. La stirpe del male vogliamo farla dopo insieme a The Sacrament o vuoi eliminarla subito? Boh, ci leghiamo a quello, ma Ok. rapidamente dopo, dai. Alabama Monroe l'hai visto poi? No, ancora no. Allora, Alabama Monroe una storia d'amore, perché il sottotitolo italiano dobbiamo sempre mettercelo, chissà perché. Film belga che era candidato agli Oscar, ve lo ricorderete, il titolo originale era The Broken Circle Breakdown. È un film, una storia d'amore, sottotitolo, è struggente, fa male, in alcuni punti fa veramente male perché è molto sincero, è molto realistico, forse qualcuno l'ha definito troppo drammatico. Ma un polpettone o comunque un classico melodrammone, invece a me è piaciuto moltissimo. Non torno sulla discussione, voleva vincere questo, non la grande bellezza, eccetera, però sì, doveva vincere questo. E poi che ho visto, o che abbiamo visto? Abbiamo visto Devil's Knot, altamente Sì. dimenticabile. Cioè, per certi versi interessante, insomma. Beh, ma è interessante Sì, la sì, storia sì. vera, non il film, non la rende più interessante. Mi è piaciuta una recensione che diceva il film inizia quando finisce, anzi, doveva farlo partire da lì. No, va bene anche così, è un punto di vista diverso e va bene. Ci sono alcuni passaggi che sembrano fin troppo divertenti, non so se erano voluti. C'è una Reese Witherspoon col doppio mento acuto, non so anche qui se è ingrassata per il film o no, boh. Sinceramente lo sto già dimenticando, non era malissimo. Ma un po' ricattatorio, un po' urlato, con queste musiche troppo sottolineanti, e poi, non so, davvero, non si invita un po' a raccontare, sì, con un certo rigore, però è poco interessante per me, al di là della storia che di per sé lo è. E poi, boh, sì, sono delle scene che hanno del surreale, e poi, boh, davvero, qui il polpettone ci sta, perché io dopo un po' non ne potevo più, era andavo avanti per inerzia, perché poi a un certo punto in poi sai che tipo di storia è, che è una di quelle che rimangono aperte, perché è un caso vero, sa, insomma, viene anticipato questo tipo di messa in scena. Non so, l'ho trovato noiosetto abbastanza. Poi c'è una fotografia terribile, accesissima, non ho capita. E poi sì, queste scene strane, lasciate perdere. Sì, sì, alla fine, sì. Era la festa del cinema. Rivedetevi Prisoners, anzi, se ve lo siete perso, perché praticamente vanno a parare alla stessa parte, ma uno è molto più riuscito. No, dicevo, era la festa del cinema, quindi era uscita tanta roba, tipo 17 film in un solo weekend, distribuiti malissimo, e nessuno era un gran film. Cioè sì, c'era la Monroe, ma purtroppo ha avuto le sue 50 sale, e vabbè. E poi, se vogliamo fare un ultimo un ricordo di Gli amanti, solo gli amanti sopravvivono, visto che finalmente è uscito anche questo in 50 sale. Ah, già. Sì, è uscito insieme a Godzilla, sempre di mostri si parla, mostri molto diversi. Beh, la puntata l'abbiamo fatta, Lascia stare Tilda io a quella e alla Swinton. recensione. È il mostro. Io l'adoro Tilda Swinton, uno dei motivi per cui dovete vederlo. E tanto non ci siete riusciti in molti, probabilmente, perché è uscito in pochissime sale. La Movies Inspired, se non sbaglio, l'ha distribuito la stessa, che quindi distribuirà altrettanto male The Raid 2, però non è colpa loro, è una piccola casa di distribuzione. E già è tanto che ci provino, per cui date un'occhiata alla pagina su Facebook, perché lì scrivono le date, ci mettono un po', ma le scrivono. E niente, vedetevelo assolutamente, a questo punto recuperatelo in altri modi se non riuscite proprio a, perché merita di essere visto, merita anche la lingua originale per diverse ragioni e basta. Poi, visto che abbiamo chiuso con i film usciti tempo fa, io mentre ero via non sono riuscito a vedere nulla, ma in un cinemino a Bari ho beccato in notevole ritardo Father and Son di Hirozaku Koreeda, che era a Cannes l'anno scorso, tra l'altro. È piaciuto moltissimo a molti, a me non è dispiaciuto, ma insomma non mi ha colpito, soprattutto non mi ha colpito come avrei pensato, visto che è una storia molto toccante, almeno nelle intenzioni. Due famiglie che si ritrovano con dei figli scambiati alla nascita e devono metterci una toppa. Due famiglie diverse per ceto, per cultura, quindi è uno scontro di classi, sessi anche. Non so, potrebbe piacere, è piaciuto a molti per la sua semplicità, io proprio per quello non sono riuscito a farmelo piacere, ma merita un'occhiata. Tra l'altro leggo ora che la DreamWorks ha comprato i diritti per un remake, perché Spielberg se n'era innamorato proprio a Cannes, dove era in giuria, io non lo sapevo, e quindi niente, se non riuscite a vederlo, è uscito a marzo se non sbaglio, anche questo in poche sale, quindi potrete vedere il remake Come saranno contenti. americano. E invece passiamo poi a quelli nuovi, velocissimo, non dico altro. Okay. non dico altro, adesso non mi ricordo chi è la regista, Nicole qualcosa, non mi viene, l'ultimo, non è vero neanche questo che è l'ultimo film di Gandolfini, perché ne è riuscito a completare un altro prima di morire. Un film che è uscito in America qualche mese fa, gran successo, indie, forte, è una commedia, è un tono molto leggero, però va a mettere a nudo l'animo umano, e soprattutto le varie debolezze umane, e fa vedere quanto siamo delle merde, insomma, sia nel giudicare sia come ci comportiamo noi, è particolare, non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto, ve lo consiglio, anche questo è uscito in due sale, credo, però si trova, mettiamola così. Invece parliamo di un film vecchio, ma anche un film futuro, che probabilmente però non uscirà in Italia, ed è The Sacrament. No, prima avevamo detto di parlare Ah un sì, beh, attimo di sì, quello comunque The brutto. Sacrament e La stirpe del male, Sì, del Malox. rapidissimamente. Dunque, La stirpe del male è uscito, sì, La stirpe del Malox, come l'ho ribattezzato, era uscito anche questo alla Festa del Cinema, Non l'aveva visto nessuno, per fortuna, non vi siete persi nulla. Manca 3 euro, meritava. È un altro found footage, POV, non so più come chiamarli. L'hanno diretto i Radio Silence, che erano quelli del primo VHS, dell'ultimo episodio del primo VHS. E davvero non ha proprio nulla da aggiungere a un genere che ci continua a bombardare di film insignificanti. Non è brutto, per carità, ma non se ne può davvero più. Ecco, poi andrò un po', mi contraddirò con il film di cui parliamo dopo, ma quello l'ho trovato un minimo più coraggioso, almeno nell'usare questo tipo di messa in scena, ma non se ne può proprio più. Qualcuno l'ha paragonato a Rosemary's Baby, ma insomma, il paragone lo suggerisce il film perché il tema è quello, la maternità, l'anticristo, vabbè. Ma poi è dichiarata la cosa, cioè proprio i registi hanno dichiarato di averlo immaginato pensando al film di Polanski. Peccato che l'abbiano proprio solo immaginato il film di Polanski, perché il nesso è molto labile, solo a livello di trama. È una robetta senza infamia e senza lode, per cui appunto senza Il bello è lode, che chiudiamola qui. non riesci neanche a recensirli questi, praticamente recensirli, poi fare un commento. È un copia e incolla degli altri, perché sono copia e incolla degli altri film. Le stesse cose, al 45esimo minuto sai esattamente quello che succederà, cioè quando il film si sveglia un po'. Stesse dinamiche, stessi personaggi quasi, stesso tutto e alla fine. Come fai a dire qualcosa di nuovo? Non ci riescono loro. Io devo dire sempre la stessa roba. Lo ricorderò solo perché la stirpe maledetta, la stirpe cattiva del film è il simbolo dell'euro. Questo è un film anti-aborto, anzi pro-aborto e anti-euro. Ok. Sì, non c'è molto altro di intelligente da dire, è proprio deprimente, Sì. puoi immaginare la difficoltà a scriverne, e Però non ne ecco, posso veramente più, sono leggo di privi di molti che stimoli. dicono sana paura. Sì, se è il tuo primo POV, immagino, perché quando ne hai visti due o tre, bah, sono veramente noiosi. Quello che scrivevo, se ti interessa lo spavento, cioè lo spavento, non la paura, che è un'altra cosa. Lo puoi vedere solo per quello, ma appunto non devi essere abituato a quelle meccaniche che sono sempre quelle, c'è la visione notturna, la persona con gli occhi spalancati, c'è proprio davvero le stesse scene, le stesse idee, non c'è proprio impegno. Non capito Eli Roth, visto che non l'ha neanche prodotto, come mai ne parla così bene. Ha detto è un film intelligente, davvero spaventoso, e anche lui ha detto paura Vendetta. vera. Vabbè, beati voi, sarò diventato apatico, non lo so, però mi ha infastidito parecchio come film. Quindi passiamo all'altro che ho odiato un pochino meno. The Sacrament di T. West. Non vi preoccupate, non esce al cinema per il momento, non credo uscirà. Però se c'è un film di T. West che può arrivare in sala è questo, perché è un POV, è un found footage. Insomma, avevo io, almeno come molti fan del regista, un po' paura, perché appunto odiando quel tipo di genere e ammirando insomma, quel tipo di messa in scena che ha reso celebre T. West, che è molto classica, molto elegante, lui è insomma un fan di Shining e si vede, insomma avevo paura che si fosse un po' intanto svenduto, perché il genere è commerciale in questo momento, è la moda del momento, anche se ormai è morta, spero, e poi perché è un tipo di film che, come abbiamo appena detto, per La stirpe del male, è insomma, impediscono di innovare, di usare idee nuove, di inventarsi qualcosa. Che sia proprio impossibile non lo dico, perché magari con i giusti sceneggiatori, il giusto regista, può tirar fuori ancora qualcosa, però io credo che abbia dei limiti intrinseci che non si possono abbattere. Per cui, insomma, paura non per il film, ma perché poteva andare male. E diciamo che proprio male male non va, perché intanto T. West fa qualcosa di particolare, non gira un horror come se lo aspetterebbe uno spettatore normale, soprattutto uno spettatore di POV alla Paranormal Activity, non c'è quel tipo di storia né di messa in scena, cioè non c'è lo spavento, il salto sulla sedia, insomma, è il soprannaturale, lui elimina tutto quel tipo di spunti e racconta una storia, semplicemente racconta un fatto che poi ha dei riferimenti a un vero fatto di cronaca, di cui non ho parlato nella recensione, di cui non parlo neanche qui, perché sarei costretto a spoilerare finale sviluppi, che comunque si intuiscono visto il tema. Comunque è la storia di una setta religiosa, di una comunità religiosa con una sede in un luogo tropicale, esotico, che se non sbaglio non viene nominato, e i protagonisti che sono i cameraman, gli inventori di un programma che si chiama Vice, vogliono approfittare un sito Vice. Ah, ok, pensavo fosse anche un canale, perché si vede il tipo, insomma, sì, ok, un sito internet di cronaca, immersionista viene definita, esiste davvero come termine, cioè quel tipo di cronaca che richiede che il cronista sia coinvolto in prima persona negli eventi. Quindi loro tre fanno questo, insomma, vanno a trovare la sorella di uno di loro tre che è entrata in questa setta e ne approfittano per documentare con le videocamere. Quindi ecco, già partiamo con uno spunto un po' più coerente, non la coppietta che vuole filmare tutta la sua vita, la propria vita, per ricordarla, ma tre persone che devono filmare per lavoro. Basta poco, insomma, rendere sensata la cosa. E soprattutto una o al limite due videocamere, perché, insomma, come anche Paranormal Activity, La Stirpe dal Male ne metteva in scena un sacco con uno stratagemma molto stupido, qui ce n'è una, è l'occhio del cameraman, e quindi il nostro, che documenta tutto, per cui la vediamo sballottata, appoggiata su delle superfici, che magari sono inclinate, quindi vediamo inquadrature storte, la veniamo puntata contro luce, viene accesa e quindi vediamo la messa a fuoco. Questa è una cosa, direte voi, stupida, ma pensate proprio ai film di cui parlavamo prima, lì quando viene spenta si riaccende ed è già tutto a posto. Qui sono costretti a spegnerla, quando la riaccendono deve mettere a fuoco, quindi noi vediamo la lente che mette a fuoco, è semplice anche questo. Addirittura in una certa scena viene abbandonata per permettere al cameraman di scappare, quindi noi vediamo quello che viene filmato accidentalmente. Piccole cose che già, ecco, proiettano il film un pochino oltre gli standard bassissimi di questa saga, di questa serie di film che usano questo POV. Ed è interessante, perché comunque T. West è uno che, come dicevo, ha uno stile di regia molto elegante, però qui si mimetizza bene, cioè mette da parte tutto quello che lo ha reso interessante agli occhi del pubblico e riesce a, appunto, a mimetizzarsi, a diventare una telecamera in mano a un cameraman. Poi l'altra idea geniale è appunto quella di eliminare, geniale, ma non mi sbilancio perché il film arriva fino a un certo punto. Comunque l'idea azzeccata è quella di eliminare il soprannaturale e quelle suggestioni horror a cui siamo abituati in questo genere. Cioè, lui va a cercare la paura nelle immagini, in quello che succede, in cui quello che è successo davvero in questa storia vera. Quindi semplicemente fa emergere l'orrore dall'evento che racconta, che è in un certo senso verosimile e normale, cioè è successo davvero con proporzioni anche più grandi. E quindi lui lascia parlare le immagini, lascia parlare il found footage, cioè restituisce al found footage la funzione originale, che non è quella di creare il salto sulla sedia perché noi stiamo vivendo in prima persona una storia stupidissima, perché la usa per raccontare, per documentare qualcosa che è indocumentabile, cioè un fatto che è già accaduto, nessuno lo ha filmato e lui lo filma con la finzione, cioè usa la finzione e questo stratagemma per creare uno pseudo documentario, davvero un vero mockumentary horror. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un prodotto molto intelligente, molto originale per gli standard del sottogenere, chiamiamolo così, e insomma ancora una volta T. West si distingue. Il problema è che fondamentalmente il genere ha dei limiti evidenti, lui ci si scontra, non sa cavarsi l'impaccio da certe cose, e quindi abbiamo dei protagonisti che sono accessori, sono voci dietro la telecamera che non ci interessano più di tanto, almeno per cui è difficile provare un attaccamento che poi ci porterà ad avere paura per loro dopo. Ed è una cosa che un po' rovina il gioco e ci fa rimpiangere T. West di Innkeepers, per esempio, che creava una premessa di un'ora in un film di 90 minuti in cui magari sì, non succedeva nulla, ma ti divertivi un sacco perché c'erano due protagoniste, quella di Innkeepers e quella di House of the Devil, che erano ben interpretate e ben scritte, e quindi ti rendevano divertente quell'attesa, ti affezionavi a questa figura che non era monodimensionale, e quindi insomma avevi un film completo, un film intelligente, ben scritto, ben sceneggiato e molto ben diretto. Qui viene meno la scrittura, un po' per colpa del regista, forse un po' per colpa del genere, perché ricordiamo comunque T. West scrive, dirige e monta i suoi film quando glielo permettono, quindi ecco, lui alla fine fa Salva il salvabile, ma realizza il suo film meno bello, anche se non ho visto Trigger Man. Comunque sopra la media di questo genere, ma il suo film meno bello, quindi una mezza delusione, se vogliamo trovare una soluzione, ecco, accomodante. Chiudo dicendo che sì, forse è stato lui a non cavarsi l'impaccio, però io, a me, ecco, è sembrato che se un regista come lui, giovane per carità, magari non maturissimo, però tosto, non è riuscito a venire fuori da certi problemi di questo found footage, forse insomma, questa è la dimostrazione che il genere è morto, cioè che non ha nulla da dire, è difficile riscriverlo, è impermeabile alle novità, e quindi neanche quelli come T. West, con l'inventiva che hanno, riescono a farne qualcosa di più, e lo dimostra il fatto che quando si parla di questo genere, i titoli belli, quelli che sono piaciuti, sono i primi, cioè La strega di Blair, Cannibal Holocaust, Il primo Rec, cioè se chiedi a qualcuno quali ti piacciono, nel 90% i titoli sono questi, perché? Perché sono i primi, quelli che hanno usato il genere per primi, che sono usciti a distanza di molti anni, e quindi funzionano per quello, ma appunto, è un genere impermeabile alle novità, credo. E The Sacrament, che è un buon film, lo dimostra, secondo me, quindi anche questo merito che gli riconosco. Se potete recuperatelo, perché non credo uscirà, è un'occhiatina la merita, specie se siete quelli che hanno un po' più di tolleranza al genere. Io non ne posso davvero più, è stato il mio ultimo i miei ultimi rantoli di entusiasmo per questa cosa informe. Tu che dici? Sostanzialmente d'accordo. Mi è piaciuto tantissimo che all'inizio ha fatto una cosa, Steve West, non so se te ne sei accorto, che nessuno nel POV fa un film di Steve West, subito. Boom. Eliminato l'immedesimazione, cioè il pensare che probabilmente è una storia vera. No, è un film di Steve West, prodotto da Eli Roth, vengono fuori i nomi del cast, ok, boom. Invece di mettere sempre la solita scritta, reperti ritrovati, eccetera, eccetera. Sì, c'è ovviamente loro due che spiegano la storia e che sono del sito Vice, eccetera. Però boom, salto, un film di T. West, produzione, chi era il fonico, eccetera. Ok, almeno un po' di come si dice, non di coraggio, ma insomma. Ecco, non è un... Sì, ma non so, non saprei come interpretarlo, non ci ho pensato lì per lì, perché effettivamente poi parte in un modo, poi ci sono questi titoli mentre loro partono, cioè con la musica rock, sì, c'è un momento di rottura con la finzione. Beh, comunque ecco. L'ho apprezzato, ormai non ci casca più nessuno, ammettetelo e boom, è un vostro film, e chi se ne frega, una cosa che appunto non si nota, va bene. Sì, insomma, mi è piaciuta molto la prima parte, dove non si sì, può immaginare come andrà a finire, però ancora non ne sei sicuro. Ti immergi nella storia, ti fa immergere nella storia abbastanza bene, sale la tensione e la curiosità, e poi perde un po', sia perché ci sono i limiti, come hai detto te, di questo genere. Che purtroppo non morirà mai, perché siamo anche nell'epoca della GoPro ormai, e è vero che costa, ma uno se la può comprare, due amici fanno gli attori, c'hai Premiere a casa, te lo monti, non ci vuole davvero niente purtroppo, e poi lo vai a rivendere, che ne so, alla Paramount a 2 lire, loro te lo distribuiscono magari male, ma boh, mai fatto il tuo film, non ne usciremo mai, anche perché incassano, La stirpe del male è nata malino. Però qualcosa lo tirano su, costando 2 lire ne incassi 4, sì, hai già incassato il doppio. Comunque, sì, in alcuni pezzi è fin troppo bravo, lui è un bravissimo regista, abbiamo visto nei suoi film precedenti, anche a me piacciono molto, non li ho visti tutti, ma quelli che ho visto mi sono piaciuto, mi sono piaciuti, piaciuto. Mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto. E infatti in alcuni passaggi è troppo bello, fa un campo e controcampo quando c'è solo un cameraman. C'è un montaggio, ok, lo fai dopo, sempre pensando che sono delle telecamera salvata da qualcuno che poi si fa il montaggio, eccetera. Però fa una prima parte che è troppo bella, perché funzionava il primissimo POV, primissimo tra virgolette, The Blair Witch Project, perché era di una grezzità spaventosa, era brutto, però era vero. Questo, troppo bello. Poi dopo un po' si ricorda, potrei far fare all'altro, al fotografo, il controcampo, l'altra telecamera. Poi usa altri passaggi, tipo la sorella, senza dire niente, per fare delle altre riprese. Lì, non lo so, purtroppo devi rompere i limiti in cui sei chiuso da questo genere orripilante. Va a scemare, però sì, in confronto al resto è quasi un capolavoro, chiaramente. Beh sì, è un finale, almeno a me, nonostante sia magari raccontato in un certo modo, anche a me non è piaciuto, cioè ci sta, lo capisco che abbia dovuto fare quel montaggio parallelo, chiamiamolo così, è anche intelligente la trovata, no? Perché ci sta, però è forzato anche in quel caso, perché quando si inizia a usare l'altra telecamera, non loro, ma le altre persone, sì. Lì è una forzatura, perché bisogna documentare quella cosa. Quindi lì emergono quei limiti di cui parlavamo. Per il resto, dico, sì, l'inizio è molto ben girato, soprattutto perché in alta definizione, però ci sta, insomma, è gente che deve fare un bel filmato. Per cui è normale, credo, che sia bello da vedere, troppo bello. Devono fare un bel servizio, poi... Sì, a volte lascia un po' perplessi, specie quando c'è quel controcampo alla fine, quando c'è una telecamera poggiata su qualcosa, c'è una bella scena lì. Ecco, riesce a fare montaggio cinematografico senza però prenderti in giro come in Paranormal Activity dal 2 in poi. Però sì, non ce la fa proprio, è uno che deve girare, deve fare i suoi carrelli, deve fare le sue cose, quindi lì forse si sente costretto non gliela fa. Bravo. È dura fare una cosa male, ormai hai la tua tecnica, è vero che a imitare la ripresa amatoriale, però insomma, poi vai in sala di montaggio e la fai bene quella cosa, vabbè. Hai in futuro altra roba? Non POV, spero. Non... spero di no, non so se vorrà partecipare ai... insomma i nuovi capitoli delle varie, no, VHS2 come abbiamo visto non c'è, però doveva uscire un nuovo Abyss of Death, mi sembra che non sia compreso, spero di no, anche perché non l'abbiamo detto, ma i suoi tentativi nei film episodi sono deludenti. Comunque neanche IMDb segna nulla, cioè The Sacrament è l'ultima cosa che ha fatto e che farà per ora, ricordiamo, prodotto da Eli Roth questo, che è un brutto serio di solito. Il becco con commenti o con produzioni. Ma, comunque, se vi interessa sapere la storia vera, io vi dico cosa cercare, ma cercatela dopo aver visto il film. Cercate Johnstown, dovrebbe uscire subito perché è un nome importante. È una storia terribile anche quella, è addirittura più assurda della finzione che mette in scena Tim West. E bravo Tim West. Abbiamo fatto? E allora sì. Qual era un altro? Sì. Ah no, scusa, una cosa veloce, perché ho visto un altro film che era a Venezia, non avevo intenzione di recensirlo perché come quello di prima mi ha messo in difficoltà, ma questo è divertente. Wolf Creek 2, che era in fuori concorso come quello di Tim West a Venezia 2013, non so se vi ricordate il primo Wolf Creek. Era uno slasher, un exploitation, australiano, ambientato a Wolf Creek, che è un cratere enorme dove si recano molti turisti. Insomma, parlava di questo Mick Taylor, che è un cacciatore di turisti, cioè li trova in questa zona di Wolf Creek e li ammazza. Io mi ricordo il primo abbastanza drammatico, Questo è il seguito, e mi sembra che vada in tutt'altra direzione, magari mi ricordo male. Fatto sta che il 2 è molto molto ironico, ed è Mick Taylor spara frasette ad effetto in continuazione, poi va visto in lingua originale perché l'accento Non è australiano uscito in è America anche meraviglioso, tipo giovedì? però è No, proprio... forse. Non so dirlo, da noi non era previsto, per cui io non stanco di aspettare, l'ho recuperato, può darsi, sì. Però non so se è uscito al cinema, perché anche il primo mi pare fosse uscito direttamente in un video. Può essere. Divertente, ecco, ha dei momenti di stanca che hanno sempre questi film che la buttano in caciara. Per farvi un'idea, ricorda un po' non tanto il primo, ma il secondo, Hatchet. Per cui, insomma, è su quel tipo lì. Solo che, insomma, si tifa un po' per il cattivo Mick Taylor, che, come dicevo, ne dice di tutti e di tutto. C'è una scena particolarmente divertente con i canguri, non vi anticipo nulla. A un certo punto non riesce più a reggersi in piedi. C'è una scena verso la fine che sì, forse può essere divertente, però non mi quadra. Sembra un po' indeciso tra lo slasher violentissimo e l'ironia. Un'ironia che c'è, divertente, ma non abbastanza. Comunque dategli un'occhiata perché in un video una serata d'amici merita di recuperare. Li ho accostati perché li ho visti in questo periodo, perché erano usciti a Venezia e ora non sono ancora arrivati al cinema, quindi non credo li vedremo. Bene, mi hai bruciato il E basta. collegamento. Dal POV, allora un altro POV, Cloverfield, Cloverfield Monster Ah, Movie, e ecco. arriviamo a Godzilla. Facciamo prima una Ah, premessona, sì? un antipastone sulla saga di Godzilla, che adesso siamo tutti esperti, tutti a dire, io l'ho visti tutti. Ma 60 anni ha compiuto quest'anno Godzilla e 30 capitoli. Voi dite, ma come, non c'era solo quello americano? E no, ce ne sono altri 28 giapponesi, per fortuna. Alcuni non tanto, per fortuna, però sono comunque. No, decisamente. Se lo amate lui, Sì, amerete anche appunto. quelli più brutti. È una puntata meno bella, ma è comunque una puntata. E quindi che fai? Non la guardi? 28 capitoli giapponesi divisi in tre ere, la Heisei, la Madonna, esatto, sì, Showa Prima Heisei e Showa, poi Millennium. Heisei, no? E adesso non è che andiamo a parlarne uno per uno, ma tiriamo fuori qualche ricordo. Come strutturiamo? Ci ho pensato. Partiamo dall'inizio senza soffermarci troppo, andiamo in ordine di Fammela uscita. riprendere. Diciamo che il primo magari non ne parliamo perché se ne può parlare in relazione al film americano di adesso che ricalca quel tipo di... Il secondo, siamo lì perché è ancora Godzilla come lo conoscevano i Però primi spettatori, e poi partiamo dalle sfide. la cosa interessante del secondo è che è un capitolo ancora. Non c'è ancora quell'idea che uno è il bravo e uno è il cattivo. Nel primo e in alcuni capitoli di Godzilla c'è solo lui che si risveglia e c'è l'esercito contro, c'è varie robe, tentativi di eliminarlo, eccetera. Come anche nel. No, sì, quello di Emmerich. Negli altri invece c'è il duello. Uno è bravo e l'altro è cattivo. Godzilla passa da una parte all'altra, inizia che è cattivo in quasi tutte le saghe, le ere, scusa, e poi diventa il difensore della terra, il buono. Il re dei mostri, no, il re dei mostri era quello. Sì, il re dei mostri, secondo. Io non so, mi ricordavo il titolo inglese, E comunque sì, qui era è Remus. contro Angurius. Cioè, Sì, cos'era? sì, sì. Rise Again, no? Il secondo. Angurius o Angilas, mi sembra che abbia i due nomi, e entrambi sono cattivi, nel senso è un duello tra di loro, ma nessuno è il difensore della terra, nessuno è l'invasore o comunque quello. È una sfida tra di loro, la terra è il terreno di sfida, appunto. Era un capitolo interessante, gli altri gli danno già dal terzo, in cui arriva King Kong, e adesso ne parliamo anche perché tutti a dire che cagata, no, un attimo, uno dei più belli. E E qui è solo una sfida, insomma. Invece da King Kong, diciamo che King Kong è il paladino della terra, anche perché è il rappresentante della natura, e invece Godzilla è il rappresentante delle radiazioni e quindi del frutto dell'uomo, del pericolo, del male. E ecco, se voi volete vedere solo alcuni, non tutti e 28, quello di King Kong contro Godzilla è uno dei capitoli che non dovete saltare, perché sembrerà una cazzata, sembrerà un Freddy vs Jason o quelle trasciate lì, invece è uno dei più belli, o no, le proporzioni sono sbagliate forse, però funziona ed è meraviglioso, anche così magari capirete la citazione dell'albero infilato in gola, tanti che stanno facendo i fumetti. Sì, è uno dei più divertenti, diciamo. E sì, poi c'era il mito del... I palloncini, Godzilla, sai, King Kong sollevato in volo. E anche il simbolo del, in un certo senso, l'America contro il Giappone. E poi c'è anche il doppio finale, un mito, il doppio finale, in cui si dice che in alcuni si sente l'urlo di Godzilla, quindi ha vinto lui, in altri si sente l'urlo di King Kong, quindi... ha vinto l'America e il gorillone. Non è vero, a quanto pare non c'è questo doppio finale, però è bello crederci. E poi andiamo avanti, sì? Pronto? Ci sono tutti i film belli, quelli almeno iniziali, tutti diretti da Ishiro Honda, un caso, quando entrerà nella produzione Jun Fukuda. Non so perché ci avviciniamo agli anni 60 e 70, ma il livello calerà molto velocemente. Allora, il quarto capitolo è contro uno dei personaggi più importanti, insieme a King Ghidorah, che parleremo poi, ed è Mothra, che anche, cioè lui è il primo bravo. Anzi sì, dopo Godzilla, è il primo veramente difensore della Terra. È questa falenona enorme, e chi la chiama? Delle fatine che cantano il suo nome, Mossura, in giapponese. E all'inizio è un larvone, e all'inizio di... come si chiama? Del nuovo Godzilla potevi anche pensare, quando ci sono quelle strisce enormi, che potesse essere Mothra, se non... Sì. Beh, anche prima, sì, perché si parla di una larva, no? Qui uno dice, non mi dire, usano uno dei più effeminati nemici di Godzilla, invece no. Se la chiedere troppo. Peggio! No, vuoi dire qualcosa su Mothra? Sì, che mi ha sempre colpito quel finale, col fatto che capiscono cosa fare con Mothra, come chiamarlo, perché vedono la chiesa con la croce. È una specie di visione sacra e capiscono che la croce è il simbolo per chiamare Mothra. È davvero strano, non mi ricordo se è qui o nel film solo di Mothra, però Mothra alla fine ha un che di cristiano, non mi ricordo più, perché poi i film su Mothra sono tanti, ce ne sono due prima, poi due di remake, c'è quello con Godzilla, comunque mi ricordo che in uno le fatine spiegano questa cosa, è davvero strano. Sì, poi arriva il primissimo capitolo del... mostro l'avversario più bello di Godzilla ed è uno di cui si affeziona, perché è bellissimo King Ghidorah, e tra l'altro si dice che potrebbe essere nel prossimo capitolo, perché sì, chiaramente là in America stanno già pensando a un seguito, sono voci, molte messe in giro dai fan, però sarebbe bello vederlo un King Ghidorah già dal secondo capitolo. Ed è l'avversario numero uno di Godzilla, perché è quello che c'è sempre e quello che c'è in più capitoli. Non è neanche tanta velata il riferimento alla Cina. È un dragone volante a tre teste, coi baffoni, è dorato, è chiaramente la Cina. Siccome non potevano più invaderla, i giapponesi hanno deciso di combatterla tra i mostri, e chiaramente vince sempre Godzilla. Tornerà in vari modi, tra l'altro anche la sua versione meccanica, Mecha King Ghidorah, che sì, vabbè, ci sarà anche Mecha Godzilla, che avrà varie versioni, una comandata dagli alieni e una comandata dalla polizia, dalle Nazioni Unite contro Godzilla, la G-Force anche viene chiamata, mi pare. Ma se facciamo solo i mostri, non è più divertente. Non so, quelli che ci ricordiamo. Sì, appunto, anche perché non volevo evitare più, la lista. Sì. Sì, Mothra, a proposito, visto che l'abbiamo detto, c'è il film sempre di Honda, perché Honda dirigeva Godzilla, i primi Godzilla, ma anche i film di spin-off, diciamo, che poi entravano dopo nella saga di Godzilla. Quindi Mothra, l'abbiamo detto, c'è anche Rodan, che è un altro, esatto, dei nemici anche storici. Lui, sì, aveva i suoi capitoli. È un pterodattilo, da cui deriva il nome, un po' invertite le consonanti, le vocali. Anche lui Gagliardo, aveva dei bei poteroni. Mothra era una versione più, appunto, più effeminata, invece quando arriva lo pterodattilo che con una spazzata di ali distrugge mezza Hokkaido, se non sbaglio, è una figatona. Tra l'altro questi mostri volanti porteranno Godzilla a volare in alcuni episodi, tramite le sue scorrette. Sì, lo sbatacchiano. Poi io mi ero fatto una lista tempo fa dei mostri che mi piacciono di più. Ecco, io parto da due che vengono odiati da molti, però a me piacciono perché mi sono rimasti in mente, come sono spaventosi e disgustosi. Kumonga e Kamaguras, che sono due abitanti dell'isola dei mostri, e sono i primi avversari di un altro super personaggio, Minilla o Minira, come volete, cioè il figlio di Godzilla, ma non è proprio il figlio perché, quante parentesi, si è discusso per tanto tempo, ma Godzilla è una femmina o un maschio? In due episodi lui ha un figlio, o lei ha un figlio, e perciò si pensava che fosse una madre e insegnasse al figlio ad essere un mostro cattivone. Invece la Toho corse ai ripari spiegando che no, non, lui è un maschio, guai dire che è una femmina, lui è un maschio che ha trovato in giro un ragazzino orfano e l'ha adottato, una cosa divertente. Comunque i primi avversari di Minilla sono questi due, Kumonga e Kamaguras. Kumonga è un ragnone enorme, super velenoso, simile a quello del Signore degli Anelli, no, cos'era? È il Signore degli Anelli, no, i ragnoni di... Sì, sono tutti e due. Sì, sì. Sono il Signore degli Anelli anche loro. Mentre Kamaguras sono le mantidi religiose enormi, o chiamate anche Gimantis, molti le odiano, a me piacciono, sono gli insettoni che mi ricordano i film... i monster movie degli americani anni 50, l'invasione degli insetti giganti come Tarantula o Them, mi ricorda il cinema di Jack Arnold che mi piace tantissimo, e comunque sono marginali nella saga, sono gli sparring partner del ragazzino. Poi Angilas, come già detto, a me piace, questo è quello che sembra di più un dinosauro del mazzo, era ancora un disegno, un'idea molto semplice, non sono ancora i mostroni che arriveranno poi. Abbiamo già detto Mothra, King Ghidorah, Mecha Godzilla, a me piace, una versione di Godzilla con i superpoteri, con i poliziotti dentro o con gli alieni che lo muovono, che all'inizio riesce anche a trasformare la sua superficie, quindi sembrava un Godzilla con le squame. È carino. Poi Biollante, qua siamo già a un'altra epoca, dell'era Heisei. Biollante, dite, sì, tra l'altro è un erede di Godzilla perché nasce da una sua cellula ed è un incrocio con una rosa. E dite, ah, vabbè, ma che cagata! No, è molto interessante la sua storia ed è. E tra l'altro la sua fine genera altri mostri, tra cui Space Godzilla, che le sue spore andranno nello spazio, chiaramente. Tra l'altro il design è molto bello, è una specie di pianta carnivora gigantesca con la faccia di Godzilla, è meraviglioso, ma anche tutta la storia, la sensitiva che diventa centrale nei film della Heisei, c'è sempre, è l'unica che può parlare con Godzilla e poi la figlia dello scienziato che viene clonata dentro una rosa, è uno dei capitoli più strani e più divertenti. Sì, ma è proprio bello perché appunto era un po' di rottura, si adattava alla cultura anni 70, mi ricordo, mi piace più, sì, Biollante, ma il film proprio perché c'erano delle cose strane, tipo i siparietti musicali, sono dei punti in cui c'è la musica, come alla Austin Power per intendersi. E poi Biollante, sì, indipendentemente da, è un mostro che si evolve, al contrario degli altri, cioè, ha varie forme, c'è il messaggio ambientalista, è geniale, e poi succedono quelle cose, Godzilla che scopre che può volare. È una cosa veramente magica. 20 film abbondano, quasi 20, e si accorge dopo aver affrontato Mothra, Rodan e quell'altro, non mi ricordo, e scopre qui che può volare. E come vola? Si sputa fiamme, tira sulla coda e svolata. È geniale. L'ho adorato, è uno dei più divertenti, insieme a Ed quello di King è Kong. uno, sì, di quelli più non seri, però che ritorna fuori il tema ecologista, perché ogni tanto se lo dimenticano e fanno solo la cazzatina, però in altri, chi era? Era Ebira? No, chi era il mostro mangia smog? Edora? No, l'altro, È Biollante. quello, la Ah. massa Edora, credo che fosse. Vabbè, comunque ogni tanto si ricordano che è una saga seria che voleva parlare di un argomento che è caro ai giapponesi e agli asiatici, insomma. Poi, andando più in là, Space Gojira, come già detto, che è una versione ultra pompata di Godzilla, anche i cristalli sulla schiena, fa delle robe pazzesche, che porta a una versione sempre peggiore di Godzilla, sempre più spaventosa, fino ad arrivare a Destroya, che è uno degli ultimi. O Desturoia in giapponese ed è spaventoso. Questo è il Godzilla che è nato in palestra, si è fatto dei muscoli disgustosi, ha la faccia da cattivo, è terribile. No, li ho finiti quelli gagliardi, perché poi ci sono appunto gli Edora, Ebira, l'aragostone che odiamo tutti. Ecco, però la sua storia è divertente perché se non sbaglio è quella dove ci sono gli alieni con l'aspetto di scimmie, i Seamen, il popolo che anzi non è che hanno l'aspetto Ah, da jazz. scimmie, loro riescono a prendere l'aspetto dei Maledetto. giapponesi, è solo che se vengono feriti in qualsiasi modo muoiono e riprendono il loro aspetto, cioè quello delle scimmie. E l'anno prima era uscito il pianeta delle scimmie, guarda caso. È il periodo in cui saccheggiavano da ogni parte. Tra Certo. Se mi ricordo queste maschere che si rompevano, sotto si vedeva sì, il musone da scimmia, che però era un po' alterato, se mi sono svegliato, avevano dei punti neri attaccati, cercavano di mascherare qualcosa No, che era credo che fosse evidente. brutto make-up. Per il resto era una scopiazzatura terribile. Sì, sono poi più capitoli, non mi ricordo, due o tre film, no? I Continui Seamen con non mi loro. ricordo, gli alieni sì, parecchi. Almeno in un paio di film, questa cosa. No, gli alieni in generale sono costanti da un certo punto in poi, ma questi alieni scimmia, se non sbaglio, almeno in un paio di Può film si essere, vedono. sì, forse un paio. Comunque, Poi ricordiamo. rettifico, io mi confondevo, sì, Biollante piace molto anche a me, ma quelle considerazioni su canzoni, Godzilla che vola, sì, erano tutte in Godzilla contro Edora, quindi Furia di Mostri, mi confondevo, Biollante sì. È quello era l'idea che era bella, invece il film che piace a me è quello Furia di Mostri, Ah che sì, era uno poi dei più strani. a un certo punto invece di creare un mostro nuovo per ogni capitolo hanno deciso di fare le Royal Rumble. Siete esperti di wrestling o comunque vi ricordate qualcosa? Cioè mettevano dentro tutti i mostri, tutti che combattevano uno contro l'altro e anche questi erano dei capitoli molto divertenti. Godzilla ha avuto purtroppo anche degli aiutanti, sì, a parte le varie Royal Rumble in cui si dividevano in fazioni. Ma ha avuto anche un aiutante che era Jet Jaguar. Era quel periodo in cui facevano i film per bambini. Avevano detto: ok, il pubblico principale dei Godzilla erano i bambini, facciamo i film per loro. Hanno introdotto Minilla e poi un bambino che aveva questo pupazzetto di un supereroe, era una specie di robottino che riusciva a diventare alto come una persona, 1,80, e ok, dice, vabbè, chi se ne frega, Godzilla è alto 60 metri, e poi però riusciva a diventare anche alto 60 metri, e combattevano contro Megalon, che era, non era lui quello con l'aspetto da gatto, c'era King Caesar e poi c'era anche una... No, quello è una King Caesar, io volevo arrivarci prima, ma è uno dei miei preferiti, perché sì. King Caesar è orribile, ma è un che compare in Godzilla contro i robot, se non sbaglio è quello, il primo con Mechagodzilla, e King Caesar doveva essere il cattivo, ma poi è il buono, se non Sì. sbaglio si spalleggiano. E praticamente è un cagnone, perché è peloso, ha le orecchie penzolanti, però ha il muso di Godzilla praticamente, con gli occhi diversi. Era proprio brutto, brutto, però cioè, sarà che è uno dei dimenticati tra i kaiju, allora Anche qua c'è c'erano simpatia. gli scimmioni, gli alieni scimmia, quindi sì, almeno 2 capitoli li hanno fatti. E poi sì, c'è anche quelli americani, ce n'è uno di cui parleremo tra poco, uno del 98 di Emmerich, che abbiamo massacrato per anni, adesso solo perché è uscito quello nuovo lo stanno rivalutando in tanti. Per favore, no, non facciamo questo giochino ogni volta, fa schifo, punto. Soprattutto vi faceva schifo ieri, non è che vi piace oggi. E poi, poco dopo il primo Godzilla, gli americani ne fecero uno con una versione orripilante, con pochissime scene in più, con un attore americano, Raymond Burr, se non sbaglio, che rappresentava che sì, era un giornalista che andava in Giappone, era solo un personaggio che avevano inserito a forza alcuni fotogrammi per cambiare la storia, perché guai a ammettere che questo mostro infernale che distrugge tutto è stato creato dalle radiazioni delle bombe atomiche americane. Guai! Una cosa che è rimasta anche nel 2014, quindi figuriamoci. E pensate che adesso il nuovo Godzilla in America uscirà a luglio, se non sbaglio, a metà luglio. E un canale giapponese li rifarà tutti. Questa è una cosa bellissima, fai tutti i 28 Godzilla, più quello americano e più addirittura persino questo, odiatissimo e giustamente perché è una bastardizzazione del film originale, loro lo rifaranno. E chapeau, perché non solo perché rifai tutti i film, ma metti dentro anche quella schifezza e potevi evitare tranquillamente. E boh, vuoi dire altro? Sì, di recuperare, appunto, vabbè, l'ho già un po' detto, ma tutti i film di Honda extra Godzilla, che poi in qualche modo ci entrano, però era un appassionato di fantascienza, voleva fare parecchie cose, un po' ne ha fatte e un po' no, quindi recuperate, sì, gli spin-off, diciamo, chiamiamoli così, su Mothra e Rodan, ma anche Atragon, che è uno dei miei preferiti, che non c'entra nulla con Godzilla, è la storia di un sottomarino militare nascosto da anni. E lì c'è un mostro che poi tornerà in uno dei capitoli, tipo Royal Rumble, non mi ricordo come si chiama, il serpentone Maria, Amanda, sì, Amanda. Amanda Lear. Il film è molto bello. Amanda Lear, sì, questo mostro dalla sessualità ambigua, è molto bello. Poi i Misteriani, che io devo ancora vedere, ma è uno dei suoi più amati, e poi ovviamente anche Matango, il mostro pene o mostro fungo, insomma. Un altro capitolo a parte, però sempre un kaiju Ha alien, fatto anche diciamo, no? Frankenstein alla Alien, però. conquista della Terra, ricordiamo. Esatto, sì. È una mente sempre al lavoro, per cui Sì, approfondite probabilmente gli anche lui da portavano i solo. copioni e lui diceva, me lo immagino alto 70 metri, come facciamo? Ha La smetta, signor fatto Honda. anche qualcuno su King Kong extra, quelli sono da recuperare, perché il King Kong asiatico è molto diverso, è davvero un tutone, è bruttino da vedere, però insomma, meglio di magari quelli, i capitoli americani più costosi. Bene. Tra l'altro, assistente alla regia di Beh, Kurosawa, non è che era un pirla, Ichiro Honda. la Toho giravano tutti gli stessi tecnici, insomma andava, e poi comunque il primo Godzilla è un colossal, poi sì, si è un po' lasciato andare alle Si stronzate, divertì. ma glielo si concede. Il primo Godzilla è un film che non ha nulla da invidiare in quanto a temi, serietà, ad altri film della Toho più quotati, per cui Ebbene, insomma. e siamo arrivati a quello nuovo. L'avete visto? Bene. Praticamente l'ha fatto chiunque, perché in un weekend ha già tirato su nel mondo più di 200 milioni di dollari. In America 93 e passa, in Italia ha già fatto i 2 milioni e mezzo, si parla già chiaramente del seguito, si parla già chiaramente di una trilogia, ma questo è già dagli inizi, già in America si fa tutto a tre ormai, non esiste il film singolo, soprattutto se deve incassare. Era un film per cui avevamo aspettative enormi, siamo fan del Godzillone, c'erano anche, le avevamo riposte bene, perché insomma c'era una super produzione dietro, c'era il consenso della Toho, la casa di produzione originale giapponese, c'era un regista giovane, misurato, esperto della materia, che aveva fatto Monster, di cui abbiamo parlato prima, che vi consigliamo. Tu hai detto di Sni? No, ha detto che sì, va ridimensionato come... Sì. Lo sconsigliavo, perché diceva di non vederlo, quindi sì, non vedere. È l'unico altro film di Erro. Sì. Tanto è strano come uno faccia un film così e subito venga preso, però va bene. C'era poi alle spalle questo orripilante film di Emmerich che, insomma, ti dicevi, vabbè, peggio di quello non si può fare. Dai che facciamo un bel film stavolta, dai. Ma tra l'altro c'era anche Pacific Rim uscito da poco, una computer grafica sempre migliore, e niente, non ce l'hanno fatta, almeno per noi è stato un flop colossale. Per dirla in maniera stringata, con una bella metafora, è come andare allo stadio o al cinema o insomma vedere qualcosa e vi sedete dietro una colonna o dietro uno col testone, uno grosso, e quindi ogni volta dovete sporgervi e non vedete bene quello per cui siete andati al cinema o allo stadio, quello che volete. È un vedo non vedo, anzi non è un vedo non vedo perché noi vediamo tutto, è un mostro non mostro, che è un bel gioco di parole, ma a quanto pare è il nuovo modo, la nuova linea che stanno tenendo a Hollywood. Tra l'altro prima mi è venuta in mente una cosa che dico dopo, che mi ero dimenticato nella recensione, anzi cioè mi è venuta in mente adesso, su questo mostro. Allora, noi siamo andati al cinema con quale aspettative, con quale stato d'animo? Di farci due risate, o comunque di divertirci, sana distruzione, con un mostrone gigantesco a cui siamo molto affezionati, un film action che ci intrattenesse nella maniera più divertente, insomma, non ci voleva tanto. Quindi non potevamo passare sopra tantissime cose. Prima di tutto, la diversa natura di Godzilla, la diversa mitologia, Genesi, perché non era neanche quotato, come vi ho appena detto, del remake americano, che gli americani avrebbero cambiato le sue origini. In questo 2014 Godzilla non è il frutto delle radiazioni, non è un varano che era lì in zona quando hanno fatto i test nell'atollo di Bikini o quando le hanno scaricate su Hiroshima e Nagasaki. Godzilla è un dinosauro, un dinosauro che risale a milioni di anni fa e che si è scavato la sua nicchia negli oceani, dorme lì, vive attaccato alla terra, insomma, al fondo per succhiare le radiazioni, perché a quanto pare la terra produce radiazioni. Io non sono esperto, è possibile questo? Sì, credo che tutti i pianeti siano radioattivi. Poi dice, dall'origine ad oggi si sono attenuati, quindi appunto lui risale a un tempo in cui le Comunque, radiazioni c'erano. Sì, credo sia corretto. Cioè, le radiazioni sono dappertutto, in realtà, poi si esatto. Comunque, svaniscono. il punto è che gli americani non devono centrarci assolutamente nulla con la sua creazione. Questo è un mostro che esisteva già. La Terra è cattiva perché gli dà anche del sostentamento, e quindi, boom. Nel film, viene anche, si parla anche di quelle famose bombe atomiche che vennero scaricate, nell'oceano. Però la spiegazione è che vennero usate per uccidere il primo Godzilla. E tu ci pensi e dici, ma non c'era anche una bella guerra, citando Hanzo Motalpa? No, a quanto pare no. Si parla anche di... Vabbè, parlano di quelli successivi degli anni 50, che poi sono quelli anche del primo Godzilla del 54, cioè dei Ah. test nucleari postumi, sempre fatti dagli americani, ma anche dai Ok. francesi. E sono quelli, anche quelli di cui si parlava nel film di Emmerich, però lì erano i Sì, c'era francesi Jean Reno, cattivi, no? il Se non sbaglio. rappresentante della Francia cattiva. Chiaramente gli americani guai mai passano per... Sì, comunque c'è un ridimensionamento delle responsabilità. Poi, insomma, però su questa cosa ci può passare sopra, fa niente. L'importante è che Godzilla ci sia, e Godzilla sia in definitiva quello che ci siamo sempre beccati, un mostro alto 70 metri. Come sia nato non ha importanza. Passare sopra anche al nemico principale di questo film, che era questo muto, Massive Unidentified Terrestrial Object, questi, non so come definirli, gorilloni, insetti volanti, un mix, che sono forse i più brutti, come concept, come disegno, fin dai tempi di Edora e di Ebira. Però ci passiamo sopra perché l'idea è interessante. Questa volta Godzilla è il, tra virgolette, difensore della Terra. Cioè, non è il difensore perché non gliene frega niente di salvare l'umanità. Semplicemente sono arrivati due nuovi, rompiballe nel suo giardino e lui deve difendere il suo territorio. Ok, ci passiamo sopra. Sono brutti, ok, però è un'idea nuova. Nuova no, perché, come abbiamo detto, dal sesto capitolo più o meno della saga originale diventava buono. Ok, però va bene, sono brutti, fa niente, a qualcuno sono anche piaciuti. Ok, hanno anche questo superpotere dell'EMP che è fastidioso, ma fa niente, va bene. Passiamo sopra anche alla sceneggiatura di bassissimo livello, però, come abbiamo detto prima, che aspettative abbiamo? È un film action caciarone, chi se ne frega. Chi se ne frega se lui è il classico soldato, se lei è una croce rossina e si devono riunire alla fine, che è una cosa fastidiosa. Potevano, peggio di così, poteva essere solo un dalmata e non so, un pompiere. Si dovevano riunire con una ragazzina sulla sedia a rotelle per creare la giusta empatia verso questa famiglia divisa. Però chi se ne frega, basta che ci siano gli scontri. Va bene anche che non ci sia la musica originale, ecco, questo mi ha fatto male al cuore. Dicevamo pochi minuti prima di entrare. Spero che Alexander Desplat, che ha curato la colonna sonora, abbia messo almeno la musica originale, quella bellissima che abbiamo messo a inizio puntata. Non c'è. Non mi lamento neanche dei vari errori, di biologia, di scienza, di quel cacchio che vi pare. Perché non me ne frega niente, è un film di fantascienza. Ok, la fantascienza deve essere comunque coerente, però chi se ne frega. Se accetto che c'è un varano gigantesco, anche se in questa versione non è così, accetto anche dei piccoli problemi, dei piccoli errori. Non è un film fatto da scienziati, ma da sceneggiatori che hanno letto a malapena un libro di scienze. Va bene, fa niente. L'importante è che ci sia Godzilla e che ci sia un bello scontro. Un Kaiju Eiga dovrebbe essere, non lo è perché è una versione americana e non lo è perché non c'è lo scontro tra mostri. O meglio, c'è Godzilla, ma in un film di 123 minuti circa c'è per 6-7 minuti. E questo è inaccettabile. Non è possibile che in un film il cui nome si chiama Godzilla, anzi il cui nome è Godzilla, in cui c'è Godzilla, tu lo fai vedere per così poco, ma non è tanto il poco, è il come lo fai vedere. È una cosa che si sono lamentati molti. Noi abbiamo subito detto, subito nel momento in cui lo vedevamo, il nervoso che ci è venuto fuori, ma poi ho sentito altre recensioni, anche recensioni video, dicono tutti abbastanza la stessa cosa. Questo montaggio fastidiosissimo fa vedere una mozzicata. Pronto? Ho sentito un qualcosa. Cosa? Questa mozzicata di Godzilla, questo inizio di scontro, poi tac, taglio e passiamo sui militari. Lo fa in continuazione, ti fa vedere qualcosa, te lo fa venire duro e poi bam, non consuma, ti mette un'altra cosa. Addirittura c'è un pezzo in cui iniziano finalmente a scontrarsi, la prima volta che si vede Godzilla e che incontra il muto, tra l'altro una delle scene più belle, innegabile, quando si vede Godzilla è veramente bella, è veramente ben fatta e lui è bello, è grasso, in effetti sì, ma fa niente, è proprio bella e lì fa una cosa terrificante, fa un taglio e fa vedere la scena attraverso uno schermo, attraverso le riprese del telegiornale, ma da distanza, che non ha senso, è una delle scene che danno più fastidio. Poi c'è una nuotata di Godzilla per ore, in cui il film si ferma, anzi sì, slitta nel Nevada, dove fa vedere l'altro muto, sì, cioè, sono scene di distruzione, anche lì la Las Vegas distrutta che si vede nel trailer, però non c'è mai del sano divertimento, perché ogni volta che ti stai per divertire, che sei lì, che ti sfreghi le mani, dici, ah, finalmente, tam, taglio, e continua a parlare di questa famiglia, di Aaron Taylor Johnson, come di Kick-Ass, che dà fastidio prima, figuriamoci adesso, e continua in questo in questa maniera, fino ad arrivare al terzo atto, in cui parlava anche una recensione di Vulture, in cui ti ha creato tutta questa aspettativa, sei lì, hai le palle piene in tutti i sensi, ti stai per godere, anzi, credi che sta per arrivare l'ultimo combattimento con i due Muto e Godzilla, e sì, il combattimento c'è, non dico come finisce, finisce anche bene, è una bella scena, c'è anche una bella trovata che si ricollega a un aspetto del Godzilla originale, però è uno scontro che aspetti da tutto il film, dura al massimo 2-3 minuti e finisce lì. ti aspetti la cosa più bella, finalmente il divertimento, niente, una robettina. Molti sono contenti di questo modo di Edwards, che insomma rispecchia anche quello che lui aveva già fatto in Monster. Questo non dare troppo, lasciare che la tua immaginazione unisca i pezzi, che è una stronzata, sono al cinema, d'accordo, va bene anche quella cosa, ma fammela vedere, io sono venuto per quello anche, io voglio vedere le cose, quando arriviamo a quella fabbrica di fuochi d'artificio, come diceva Milhouse, però alcuni sono contenti e parlando con altre persone tutti mi dicono, e vabbè, e allora Godzilla si vede poco, ma il film è bello. No, prima di tutto no, per i vari problemi su cui sono passato oltre, però passavo oltre se c'era un combattimento di mostri alla fine, però se tu togli i mostri, il combattimento di mostri in un film che si chiama, che il suo genere è Monster Movie, non stai facendo bene le cose, hai tolto, che ne so, il romanticismo in un film romantico, lo sport in un film sportivo, hai tolto quello per cui sono venuto. E un'altra, ecco, volevo fare il paragone, come magari aveva fatto qualcuno, con The Host. Anche lì uno potrebbe dire, vabbè, il mostro si vede poco, gli scontri non ci sono, lì è uno solo. Addirittura, se parliamo di rappresentazione grafica dei mostri, quello di Host è veramente brutto, come grafica. Sì, ma lì c'era sotto una trama, una storia, una sceneggiatura di grandissimo livello, che aveva il suo giusto peso. Qui è, se mi togli i mostri e metti un film, una sceneggiatura di un dramma simile, disgustoso, no, non va bene né una cosa né l'altra. Ed ecco cosa mi ha fatto pensare anche, questo Godzilla è un film dell'Asylum quasi. Se ti ricordi, ogni volta che guardiamo i film dell'Asylum diciamo, sì, bello, mi avete venduto bene la locandina e la trama cazzara, però alla fine 5-6 minuti dello squalo gigante o del tornado con gli squali dentro o con il coccodrillo enorme, per il resto sono dialoghi insulsi, sceneggiatura di scritta coi piedi e personaggi fastidiosissimi. E questo Godzilla cos'è? La stessa roba. Alla fine si sono ispirati al modo di fare dell'Asylum, hanno venduto il prodotto benissimo e il film, sì, ok. Solo che l'Asylum, quanti soldi ha da spendere? 20.000 lire. Questi avevano milioni su milioni. Alla fine una CGI utilizzata pochissimo, è nascosta dai palazzi o nascosta da altre cose. Delusione, delusione totale, non è solo perché sono fan o perché mi aspettavo un film di 90 minuti solo con combattimenti di mostri. Anche nell'originale del 54 c'è molto spazio alla dimensione umana, anche alle coppie, all'amore, è anche un film romantico nell'originale. Però era un giusto peso e soprattutto era un gran bel film. Questo no, non lo accetto. Se devi fare una cazzata perché non sei capace di fare un film decente, buttala sulla caciara, su quello per cui siamo venuti. Edwards non lo fa. E per ritornare al discorso iniziale, e qui ci dicevamo che sì, la scelta di Edwards era azzeccata. Perché lui aveva già dimostrato quello che voleva fare con i mostri, con Monster Movie. E se noi pensavamo, ma quando avrà i soldi farà molto meglio, farà vedere il mostro, forse ci sbagliavamo. Lui voleva già fare una cosa del genere e l'ha fatta anche qui con un budget di milioni e milioni. Dispiace, probabilmente ne farà altri due sempre lui, e amen. Speriamo solo che la Toho ne faccia alcuni suoi, magari con qualche incasso, qualche percentuale su questi incassi. Lascio la parola a te. Visto che no, i soldi non stanno andando male, per cui vabbè, sì, no, io credo di averlo già detto, se non durante, subito dopo, che Edwards non è che la scelta sbagliata perché avrebbe fatto quel tipo di film, è che secondo me è un regista, non si può neanche dire perché ha fatto due cose, ma sopravvalutato. Io mi ricordo Monster, prima di vederlo me ne parlavano come di un film molto intelligente, sì, intelligente. Cosa fa? Fa una cosa che si faceva negli anni 60, negli anni 70, cioè non mostrare troppo, far emergere altro, va benissimo. Il punto è che cosa emerge, cioè, davvero lì basta l'intuizione. Io mi ricordo un film piuttosto noioso, proprio perché, sì, non voglio i mostri, ma nemmeno mi interessa, è che quello che mi mostri non è interessante, sono figure molto piatte, che poi lì, proprio che siamo dalle parti del found footage, diciamo, anche lì c'erano quel tipo di personaggi, quelli che trovi in tutti i Paranormal Activity e cloni, cioè gente che non esisterebbe nella realtà e me la inquadri come se il film fosse un documento, quindi già c'è un cortocircuito che non quadra. Quindi ecco, io ci ho pensato prima, se fa un film del genere con Godzilla si incazzeranno tutti, però magari gli fanno pressioni e fa vedere la caciara. Invece no, ha fatto quello che voleva fare, quello che ha dichiarato, cioè rifarsi a film come lui ha detto, almeno a parole ha detto di essersi ispirato a Lo Squalo, Alien e non ricordo cos'altro, e chiaramente lo dico io questo al primo Godzilla, che era un dramma bellico, un catastrofico e quant'altro, e questo non è un monster movie, è un catastrofico, ma non alla Godzilla 54, alla Hollywood, cioè a come tutti gli ultimi usciti, come anche quelli di Emmerich. Mi ha fatto pensare in particolare a World War Z, quello sugli zombie con Brad Pitt, che se ricorderete avevo mal digerito, e questo me lo ha ricordato pericolosamente, perché la struttura è la stessa, cioè le sceneggiature sono le stesse. Il padre di famiglia, che qui è prima un figlio e poi anche un padre, deve fare l'impossibile per salvare anche, ma soprattutto per ricongiungersi a, e la storia è la stessa, cioè se andate a vedere c'è il giro del mondo, c'è il militare o pseudo militare che casualmente è sempre al posto giusto, e ci si trova grazie a trovate narrative proprio da manuale, quindi roba vista e stravista, ed è tutto qui, è un catastrofico con Godzilla sullo sfondo. Ora qualcuno mi dirà, sì, ma non vederlo, preparare l'attesa. Ma cosa ha inventato? Cioè, ha inventato l'acqua calda, Edwards? Qual è la novità? Appunto, si rifà a, secondo me si rifà male al film come Lo Squalo e Alien, che soprattutto Lo Squalo, visto che siamo a livello di dramma, siamo lì, perché è molto leggero Godzilla, che ne dicano gli ammiratori dell'ultimo film. Ma Lo Squalo era divertente, c'erano due personaggi su schermo con cui ti divertivi, a cui ti appassionavi, anche la scena famosa di Brody che è a casa col figlio che lo imita quando lui è preoccupato. Quello è un bellissimo pezzo di cinema. Spielberg, come ritraeva quel tipo di siparietti familiari, non lo fa nessuno, e tantomeno Edwards, perché i suoi personaggi sono, sì, diciamo anche piatti, sono insignificanti. Sì, c'è quello di Cranston, che secondo me è più Cranston che il personaggio, che piace a molti, però ci sta, cioè è un personaggio che può anche avere una sua vita su schermo, anche se in realtà è il classico pazzo che c'era in tutti i film catastrofici di una volta, che mette in guardia tutti, nessuno gli crede, lui c'ha il senso di colpa perché era coinvolto, perché sapeva qualcosa, cioè sono meccaniche degli anni 50 queste, dei film da drive-in. Mi sembra che con molti non sia arrivato questo aspetto, questa superficialità. Vedo gente che dice: ma cacchio, ah, che intuizione. Beh, boh, davvero siamo al punto in cui ci entusiasmiamo perché si crea l'attesa per vedere qualcosa. Va bene, può anche essere positivo in un cinema blockbuster, tutto uguale. Il problema è che Gareth Edwards non lo sa fare, non l'ha scritto lui il film, per cui sto facendo un errore che fanno in molti. Gli sceneggiatori, se non sbaglio, c'è dentro anche Darabont, ma magari ho sentito male. Hanno fatto un lavoro pessimo. Eh sì, è una cosa tormentata, è passata da cinque sceneggiatori diversi. Chi se ne frega, su schermo è arrivata una cosa che non ha interesse, è priva di interesse, è priva di spessore. C'è qualche intuizione bella, sì, la scena dei paracaduti, per carità, anche se, insomma, dopo 2 ore un'idea è poco. C'è qualcos'altro, quella del ponte, che è bella da vedere, ma poi su carta non funziona, non ha senso. Però basta, sono due o tre momenti belli da vedere, ma si fanno attendere un sacco. Io all'inizio al gioco ci stavo anche, perché mi stava piacendo il mistero intorno ai Due Muto, perché lì c'è davvero l'intuizione. Godzilla lo conosciamo, vogliamo vederlo, ma lo conosci, anche se non hai visto i film. Ma i Muto sono la novità, e quindi ok, crei l'attesa per loro. E il problema è che intanto poi vi vedono solo loro e poco, e poi comunque anche in quel caso si torna sempre ad altezza uomo. Dicevo su Facebook, ho usato questa espressione, quest'idea ancora di nuovo, secondo alcuni, rivoluzionaria, di inquadrare dal punto di vista delle persone. E vabbè, grazie, ci siamo arrivati di nuovo nel 2014, ma cioè, non capisco come si possa reggere a una visione così lunga con una storia del genere, cioè non c'è proprio tridimensionalità, non c'è nulla, sono personaggi insignificanti che stanno a guardare dei mostri che combattono per qualche secondo, poi si rigirano e via verso il nuovo cliché, la nuova assurdità, perché ce ne sono. Ci sono in tutti i film, direte voi, sì, però se io mi annoio ci faccio caso, è una cosa che dico sempre. Mi devi distrarre dalle forzature, dalle inverosimiglianze. Io non so, davvero, contavo le teste degli spettatori, mi annoiavo, e non mi succede spesso con film di questo tipo, perché mi bastano poche cose buone e un po' mi diverto, ci sto al gioco, non è difficile. Ma qui mi sembra che manchi proprio la sostanza. Non so proprio come identificarlo questo film, mi sembra proprio un prodottone, sbagliato fin dai presupposti. E dispiace perché poi quando ci sono quei momenti, sì, come la discesa dei paracaduti, ma anche come lo scontro attesissimo, per cui deve essere bello per forza, li vedi, ok, Edwards, anche se non è il suo interesse, il suo genere, sa inquadrare, sa gestire, sa mostrare, che poi c'è anche la sceneggiatura, perché il combattimento è stato scritto prima che è girato. Però dici, ok, ma tutta questa creatività, perché non l'hanno indirizzata lì? Perché il resto, ma chi interessa? Allo spettatore medio interessa davvero il polpettone familiare catastrofico, l'ennesimo, con lo spessore di quello di 2012, perché non, dai, guardiamoci in faccia. Cosa c'è di più profondo qui, nella storia di John Cusack col camper che va su per i monti e salta i canyon che si aprono con la lava dentro? Cioè, non è tanto diverso. La retorica è quella, davvero, non riesco a trovare nulla di positivo, ed è grave, credo. Tanto più perché mi stava piacendo l'approccio iniziale, solo che è rimasto lì, una cosa in sospeso, cioè un continuo avvicinarsi, e non perché non si vede Godzilla, perché sì, anch'io sono venuto come te, sono andato come te per vederlo, ma è che quello che mi fa vedere è al suo posto che non funziona. Tu hai citato The Host perché l'hanno citato altri. Ed è un bel esempio, perché lì non ti interessa il mostro è brutto, non ci sono i soldi per farlo bene, chi se ne frega, perché ti mostrano una famiglia, una certa denuncia sociale, una certa ironia, delle stupidaggini, momenti comici semplici, però ti appassiona quello, non vuoi vedere il mostro, non ti interessa, è l'elemento di disturbo, e qui non c'è questo, cioè non c'è l'attesa come in Alien o come lo squalo, perché c'è la noia, il tedio e l'attesa in quel senso, non so, è un film sbagliato dall'inizio alla fine, credo, non ci trovo proprio nulla di positivo. Qualcuno ha detto, sì, è un nuovo modo di fare blockbuster, ripeto, ma nuovo cosa? Cioè, siamo tornati indietro di 40 anni, di 30 anni e ci entusiasmiamo, va bene. Quindi il secondo e il terzo saranno così, perché questo incassa alla grande, la gente gli dice, ecco, così vanno fatti. Va bene, e tu hai detto, non si può rivalutare io lo rivaluto l'originale, non perché prima ne parlassi male o ne parlo bene, nel senso che voglio ribadire che quello, non essendo Godzilla, ma a me non interessa, sono fan, ma questo aspetto lo tralascio. Ma era una stronzata che aveva il suo divertimento, io credo un bambino si divertisse, io ero un bambino e in qualche modo mi sono goduto lo spettacolo. Qui non me lo godo da adulto, ma da bambino mi sarei fatto il triplo delle palle, diciamo alla volgare. E non so, non capisco come mai stia incassando così tanto. È tutto attesa, sì. Cioè tutto quello che si è preparato prima adesso sta pagando. Perché poi sì, come hai detto tu, c'è chi sta esprimendo pareri positivi. Però sono tanti che dicono che palle, e che dicono sì, ma eppure sta incassando una bomba. E Pacific Rim, che probabilmente meritava di incassare, se non uguale, molto di più, è andato male. Cioè, cosa c'è di storto nel mondo? Cioè, questo ora passa per cinema, per blockbuster impegnato, Pacific Rim per film stupido. Poi, ma andiamo a vedere le stesse cose, retorica militare, militari scemi, militari intelligenti, l'eroe, il controeroe, le cose, sono le stesse cose. Cioè, l'umanità è condannata se promuoviamo queste cose e non Pacific Rim, che ripeto, qualche perplessità l'avevo espressa allora e la confermo, ma è su un altro pianeta proprio. Allora, questo Godzilla ha l'unico pregio di aver fatto conoscere al pubblico medio anche gli altri Godzilla, cioè adesso tutti ne parlano e quindi è venuto fuori che ci sono altri film di Godzilla, quindi spero che adesso tutti vadano a vedere quelli e si rendano conto qual è un bel film con i mostri, e che rivalutino questo, perché sarebbe il caso. Questo è l'unico pregio, farà conoscere quei film vecchi e belli di Godzilla. Sì. Soprattutto. Almeno il primo, ecco, perché gli altri, se non sei un fan, come dicevo all'inizio, se non sei proprio appassionato a quel tipo di, puoi trovarli orribili, anche alcuni abbastanza noiosi, perché più avanti si va, più un po' si riciclano le idee, i film arrivano a un'ora e tre quarti, e spesso ti fai due palle così, perché lì davvero c'era quel tipo di problema. Erano film basati solo sullo scontro e si faceva attendere. Ecco, questo film ha i problemi di alcuni film dell'era, diciamo, di 6 o comunque tarda saga. Vorrebbe essere chissà cosa, riempie di chissà cosa, alla fine l'importante sono i mostri e si vedono poco. Addirittura meno di quanto succedeva nei vari Godzilla contro. Però hai detto, dov'è la tridimensionalità? Sì. C'è. parliamo di quello. È vero, il 3D, sì, mamma mia. Che punizione. Sì, un altro film che ci ha fatto pentire, nonostante qui abbiamo sì, pagato. I primi 10 poco, minuti, no? Diciamo, mazza di profondità di campo. Poi basta. Perché c'è la luce, le bombe che scoppiano, le fiamme, i primi piani di Bryan Cranston, dici, vedo qualcosa, poi niente, cala la notte, cala il fumo e non vedi Godzilla, non vedi nulla, ma non vedi neanche il resto, non è un problema. Sono nere le stelenti, scuriscono, non ce n'è, è proprio tutto più scuro, sì. È brutto così, lo riguardi in 2D a casa, su un bel televisore e dici, ammazza, che ho alzato la luminosità. Così è corretto. Il 3D ti dà proprio un'immagine sbagliata. Perché quando, anche adesso, vai a casa a vedere il trailer di Godzilla, stesse scene, è più luminoso ed è più bello. Al cinema è davvero scuro, te le levi un attimo le lenti e vedi, sì. Dici, cavolo, adesso le levo perché fa niente. Sì, non capisco perché non li girano a una luminosità accecante così. non risolviamo il problema, perché effettivamente è come guardare con gli occhiali da sole. Ora, vabbè, stiamo ripetendo una cosa che abbiamo detto mille volte, però qui davvero era fastidioso. Anche perché da un certo punto in poi sarà la noia, sarà che non è stato usato tanto, ma questa profondità, questa tridimensionalità anche accennata, cioè smetti proprio di notarla. A me si nota di più il mal di testa, la difficoltà a vedere, il fastidio sul naso, perché vabbè, io ho il doppio occhiale. Però è davvero un modo di non godersi quel Dimostra poco per che c'era da l'ennesima volta godersi. che il 3D non sarà l'oggetto che ti viene addosso, non deve essere usato in quel modo, però il resto non lo noti e noti quando ti arrivano le robe addosso, che alla fine il 3D è quello, è un mezzuccio, è una cosa da baraccone, va bene così, cioè ovviamente se lo usi in un modo corretto, hai voglia, ne guadagna il film. Anche un film non spettacolare come un Godzilla. Però, se è così che te ne dimentichi. Io davvero mi ricordo, sì, le prime cinque scene con Bryan Cranston. Le scene con Bryan Cranston, sì. Lì dici, oh, riesco a vedere, la libreria dietro, oh, sembra di toccarla. Poi basta. Sì, esatto, lì ancora mi ricordavo, poi passa, sì. Che poi vedo sempre più gente, fortunatamente, che dice vado a vederlo, ma non vado a vederlo in 3D. Io credo che la sala piena, o quanto era piena, non lo so, sia stata proprio perché c'era la festa del cinema, un minimo di disaffezione, di allontanamento da questa cosa c'è, secondo me, in corso, perché c'è sempre meno, anche la loccone si stanca di pagare quei soldi in più di non vedere bene, e poi quando vai a vederli comunque senti i commenti identici da metà sala mentre esci, quindi è una presa di coscienza sempre più forte. Purtroppo non basta a E cambiare poi, le cose. ultima cosa, a proposito del Godzilla originale, avevamo 10 anni circa, no? Eravamo bambini, il cinema di intrattenimento era quello, era fine anni 90, era ignorante, ma era quell'intrattenimento divertente, scanzonato, fracassone, va bene. Questo intrattenimento di oggi, che si prende maledettamente sul serio, è veramente noioso, come dicevi te. E noi siamo adulti, ok? Lo sentiremo di più. Ma anche un bambino, come fa a divertirsi con l'intrattenimento di oggi? Che praticamente si divide in due, quello troppo serio, come questo, o quello dei Marvel, che sta andando sempre di più alla deriva Disney, con battutine, cazzatine. L'intrattenimento sta veramente peggiorando, a vista d'occhio. Meno male che noi eravamo bambini una volta. Magari questo discorso lo fanno ogni 10 anni, è chiaro. Però riguardare anche solo i film anni 90, quelli erano divertenti. L'intrattenimento di oggi è pallottico. Sembra che. Sì, è un Sì. po' colpa di Nolan questo sempre, perché non solo, beh, si tende a ricondurre tutto a lui, però c'è questa tendenza questo è un film che ha molto in comune con l'ultimo Batman, cioè lungo, pieno di sé, molto maledettamente, si prende maledettamente sul serio, come dicevi, e poi ti fai due palle così, e adesso spiace anche buttarla sul volgare, ma è un film volgare a suo modo, perché è bassa lega come scrittura, come idee. Però c'è quello scuro, la nebbia, il dramma. Sì, ma non bastano i filtri o il fuoco, le fiamme a fare la catastrofe. Cioè, devi renderla temibile, devi rendere i personaggi vulnerabili. Invece qua no, ti massacri, ti rendono per sfinimento. Io davvero mi sorprendo. In altri casi dico, questione di gusti, di punti di vista, di cultura, di cose. Qui mi sorprendo che uno spettatore qualsiasi si possa divertire. Perché anch'io mi sono un po' emozionato quando Godzilla finalmente urla, quando finalmente randella i muto. È inevitabile, perché sono momenti ben fatti, ma come fanno a mettere da parte il giudizio su tutto il resto? Perché io vedo tanti che dicono, sì, divertente, però in effetti è scritto proprio alla buona. E allora in quelle 2 ore cosa hai fatto tu? Cioè, come ti sei Saggiavano, tenuto in magari, vita? non lo Boh. Può darsi. Sarà il mal di testa per il 3D che ti tiene sveglio, ti Eh tiene sì, col dispo. 2D pensate come saremmo messi. Viva il 3D. Ci Sì. avremo meno di cui lamentarci, Bene, penso. allora abbiamo fatto le nostre 2 ore piene. Ah sì, abbiamo 2 ore ricominciato, 10. veniamo a Scusate. Fanno i film di 2 ore con una sceneggiatura che vale per 20 minuti, Sì, noi con un possiamo fare una foglio di chiacchierata 20 di righe. 2 ore, Torniamo alla no? prossima settimana, come abbiamo detto, Cronenberg. Faremo a quel punto uno speciale Cronenberg, magari. Sì, speriamo di vedere qualcos'altro, tanto non Sì, ammorbarvi solo con quel vediamo, film. anche perché abbiamo già detto quello che esce, avrà poca distribuzione. Sì. C'è X-Men, ma non so se lo No? vedremo né se ne parleremo. E come? Tu ti sei visto Amazing Spider-Man 2? Non fare Va bene, guardatelo tu, ok. insomma, sì, comunque. È troppa roba. Vedi? No, vabbè, solo Cronenberg. Bene, magari X-Men era quell'intrattenimento che cercavamo. E ce lo perderemo. No, anche perché è finita la festa del cinema, noi siamo. Cerchiamo di andare al cinema, di vederli pagando, insomma. Tra tempo e soldi, uno, massimo due film riesci a Vabbè, vedere. insomma, vedremo quello che riusciamo a tirare su. Guidate con prudenza Sì. e buonanotte. Ciao!